può fare. L'attualità, anche d'estate, di Alessio Maurizi. Buonasera, ben ritrovati cari ascoltatori, eccoci qua, 800 24 0024, il numero verde per intervenire in diretta come sempre questa sera, che è la grande sera, 349 238 6666 per i vostri SMS, Facebook si può fare trattino radio 24, Twitter si può fare 24. Gabardini, buonasera. Buonasera. C'è qualcosa su Twitter? C'è Mentana su Twitter? No, Mentana non è su Twitter, Mentana è assolutamente alla 7, sempre in onda. Però diciamo, oggi è top trend, nonostante lui sia uscito da Twitter. È al sesto posto in questo momento dei trending topic di Twitter. Perché c'è un po' di ironia sul fatto che da quante ore lui sta aspettando la sentenza? Da, credo, 20 anni? No, non si può dire 20 anni. Ieri lo speciale. Ieri l'ha fatto tutto in onda, oggi è iniziato molto presto perché è stato anche ospite al suo TG, poi ospite al TG Cronache e poi dopo ha iniziato alle 14:40 e quindi l'ironia sta dilagando su Twitter, su e poi sentenza qua. Mediaset, che invece è il terzo trending topic ed è l'hashtag che poi tra un po' sarà quello predominante, perché naturalmente attaccato a questo hashtag ci saranno tutti i commenti su questa giornata. Noi siamo sono emozionatissimo, se posso dire, perché da stagista sono in una redazione dove sta arrivando la notizia del secolo e quindi sono veramente emozionato. Sono punti. Dovresti quasi essere tu a pagarci per questa presenza. Ma questo oggi, ovviamente. Vabbè, ma poi si fanno dei punti stage se si è qua durante Attenzione, una notizia perché come poi questa. C'è l'ascoltatrice che ti corregge. Stage. La squadra è sempre la stessa: Giorgio De Luca, Riccardo Buccero in redazione, Andrea Piana che ci aiuta a scrivere il programma, Pietro La Corte in regia. 800 24 0024. Cominciamo con i titoli. Sky TG24. Processo Mediaset, tra poco la sentenza della Cassazione, giudici in Camera di Consiglio dalle 12:30. Nel PDL prevale la linea morbida, Berlusconi frena i falchi, no alla manifestazione sotto Palazzo Grazioli. Lo scontro nella maggioranza sulle nomine dei vertici di alcune commissioni, il PDL minaccia la crisi di governo. La sciagura sulla 16 indagati il titolare della ditta di noleggio Pullman e due dipendenti della società Autostrade. Asilo temporaneo in Russia per la talpa del Datagate. Snowden ha già lasciato l'aeroporto di Mosca ed è diretto verso un luogo sicuro e segreto. Amichevoli a suon di gol per Juve, Milan e Roma, ma da stasera si fa sul serio, preliminari d'Europa League per l'Udinese. E se ne frega se qualcuno è in ritardo, puoi chiamarlo bastardo, ma intanto è già andato. In queste ore Renzi ha fatto sapere anche al presidente stesso Berlusconi la sua solidarietà per una vicenda che giudica come adesso non so la gli ha telefonato? Gli ha telefonato? No, che gli ha mandato come un viaggiatore, gli ha mandato un biglietto, no, non era lettera profumata, questo, un SMS. Questo non lo so, a me risulta che gli ha fatto un sapere, tweet. Che gli ha fatto sapere che c'è, come dire, che anche lui è, come dire, speranzoso in una soluzione e non solo per interesse personale, diciamo, no? La chiave per capire questo genere di suono che a molte orecchie può sembrare frastuono. Io mi sento di dare la mia disponibilità a dare le dimissioni per lui oggettivamente, cioè è un atto di solidarietà nei suoi confronti. Questo però rischia di danneggiare sicuramente il governo. Assolutamente no, perché le dimissioni anche da parlamentare possono essere respinte o meno, possono essere accettate. Per quale motivo dovrei danneggiare il governo? Ma sarò libera, quantomeno saremo ancora liberi in democrazia e in questo paese di poter dare un gesto di solidarietà, di poter fare un gesto di solidarietà nei confronti della persona a cui tutto si deve. A Biancofiore sono giorni che vuole dare le dimissioni, cioè le deve dare queste dimissioni perché deve dare questo gesto di testimonianza. Io poi non ho capito una cosa: dare le dimissioni perché poi vengano respinte, perché è questo è no? Quello che spera, direi. Sì, ma allora non si capisce bene che gesto è, cioè francamente è un po' incomprensibile. Comunque ancora qualche ora e poi vedremo se in caso di condanna, poi magari ci sarà una sentenza che ci sorprende tutti, ci sarà un compromesso all'italiana, chissà. Chi lo sa. Tra l'altro, sempre per parlare di Twitter, direi che bisogna mettersi d'accordo su un unico hashtag, perché gli hashtag stanno diventando tantissimi, cioè sentenza Mediaset, Cassazione, Palazzo Grazioli, Esercito di Silvio, Mentana, sono tutti praticamente, forse anche Emma Give Me Five fa parte di questi che parlano di Berlusconi. Mettetevi d'accordo, internauti, a questo punto. Oh, adesso voglio intanto il giallo della presunta telefonata di Renzi a Berlusconi, o un messaggio, dice Sallusti, non so se c'è stata una telefonata o un messaggio qualcosa, però Sallusti sa che Renzi ha espresso solidarietà a Berlusconi, questo può anche darsi, non lo so. Mi torna meno il fatto che Renzi non tifi per una condanna, ma non tanto per una questione strategica tra nemici politici, ma perché la condanna si accorcia ai tempi del governo Letta, Renzi non vede l'ora di entrare in campo, quindi non ho capito bene il discorso di Sallusti, ma forse sono io. Sentiamo Bondi, il pessimismo di Bondi. Questa mattina Onibus naturalmente parlava dell'attesa di questa Cassazione, ma anche ha fatto un discorso un po' tutto tondo sulla situazione politica italiana. Era tanto che non sentiamo parlare Bondi. Però al tempo stesso c'è anche il bisogno da parte di tutti di vivere in un paese finalmente normale, perché non ce la facciamo più vivere in un paese così, di fatto di conflitti permanenti. Che non mi stanco. Qui i destini sono intrecciati, il governo, il futuro, Berlusconi. Per questo anche nei giorni scorsi io ho detto, ma se in questo paese ancora c'è un residuo di classe dirigente, io dubito che ci sia, ma se c'è ancora un residuo di classe dirigente, cioè di una classe che è formata da politici, non soltanto dai politici, ma dagli imprenditori, dal mondo della cultura, dai sindacati, anche dai magistrati che fanno parte in qualche modo di una classe dirigente del paese. Io spero che questa classe dirigente pensi anche al destino di questo paese. Questo paese rischia molto, non solo per la crisi economica, ma rischia molto di perdersi, di sfasciarsi. Lo sappiamo tutti che siamo un paese fragile, che basta poco perché questo paese si perda. Oh, intanto un dato di cronaca, io ho sentito poco fa il nostro inviato Andrea Viali, che emerge dall'attesa per la Cassazione, è che c'è un caldo bestiale a Roma, sono lì tutti in giacca e cravatta i giornalisti, quelli che fanno i collegamenti alla televisione, stanno morendo perché fa caldissimo, e infatti si vede anche dalle immagini. Vogliamo sentire un po' di colore davanti a Palazzo della Cassazione con Annarella che insomma fa il suo show. Bisogna sentire la sentenza. Che cosa si aspetta? Aspetto che no, 3 anni che c'hanno, 5 anni se ne hanno dai 3, ce ne devono da 15, non sta più la faccia della terra. In galera no, però non sta da far vedere, da sta chiuso dentro casa, come il carcere di Regina Celi deve stare. Cosa succede? Se siamo levati una puzza davanti l'occhi, quella puzza da vero, schioppettati. E il PD secondo te che farà se venisse con me? Sta con me. Hai capito, però a parte il PD che viene con me, dice lei. Potrebbe, siamo tutti contenti, potrebbe candidarsi alle primarie Annarella, perché il PD ha bisogno di una guida, questo è evidente. Però mi piace la saggezza di Annarella che dice in galera no, però si deve far da parte. Ma questo sì, lo dicono in tanti, anche non si augura nessuno, no, infatti, sono d'accordo. Si è già fatto da parte, adesso c'è Alfano. Però il momento è storico. Siamo al momento invece del traffico. Salutiamo il nostro primo ospite di questa sera, che non c'entra nulla con la Cassazione. Vogliamo parlare di un'altra cosa, del Colosseo a Roma. E salutiamo Carlo Rienzi, presidente del Codacons. Buonasera a voi tutti. Codacons che ha perso il ricorso al Consiglio di Stato per bloccare i famosi lavori sponsorizzati da Della Valle. Però ne parliamo subito dopo. Good news, traffico. And now, the good news! Roberto Chiappella è un radiotecnico in pensione. Recuperando libri gettati via o donati da chi voleva disfarsene, ha aperto una biblioteca. La cosa strana è che la biblioteca si trova nel suo condominio di Milano, in un'ex portineria. Così alla prossima assemblea condominiale si potrà litigare. Sì, ma citando Tolstoi o Voltaire. Si può fare l'attualità anche d'estate. E sono stato io a decidere di affidare il restauro del Colosseo a Della Valle, che per fortuna si è dimostrato disponibile a mettere 25 milioni di euro per il restauro del Colosseo. E sono passati quanti anni? Ricorso del Kodakos. Adesso si è sbloccato. Si è sbloccato ieri. No, ieri sì. Ma ancora non sono sicuro che si sia sbloccato. Perché sì, ci può essere non sono sicuro, ci può essere qualche altro inghippo che fermi tutto. Capisce? Questo è una cosa che in altro paese l'avrebbero già, il Colosseo sarebbe stato già restaurato. Rienzi, ha capito? Lei è un inghippo che ferma tutto. Come facciamo? Speriamo che ce ne sia qualche altro che fermi il regalo del Colosseo a un privato, che è una cosa vergognosa. Però ecco, il Consiglio di Stato sì, non ha respinto il ricorso, attenzione, non ha detto l'appalto dato a Della Valle è corretto, non ci sono tutti gli impicci che voi dite, non ci sono gli imbrogli che denunciate, ha detto voi non potete fare ricorso, pensa un po'. Vabbè, allora, però qualcosa ha detto, cioè intanto non potete fare, no, intanto una domanda questo mi viene da fargliela, ma perché avete fatto ricorso? Cioè, che c'entra l'associazione di consumatori col Colosseo, che è una cosa che ha a che fare con i beni culturali? Allora, io lo dico, c'è un'associazione ambientalista e il concetto di ambiente in Europa e in Italia comprende tutto, tutti i beni monumentali e paesaggistici. Quindi è una balla clamorosa quella di non dare la legittimazione all'associazione ambientalista riconosciuta in base alla legge famosa del 1986. Allora, loro non vogliono fermare questa cosa. No, però restiamo un attimo sul punto, poi facciamo le valutazioni più generali, perché la domanda resta, cioè, voi avete fatto questo ricorso, ricordiamolo, perché? Perché uno sta lì, magari sotto l'ombrellone a casa, sta facendo i fatti suoi, sente la notizia, Colosseo bloccato, i lavori, il ricorso del Kodakons, 2 anni e mezzo, perché voi avete fatto, cioè Della Valle ci vuol mettere 25 milioni di euro, grazie a Dio, perché se non ce li mette lui il Comune di Roma non ce l'ha, per risistemare il Colosseo. Voi dite no. Non ci è capito una cosa, che se avessero dato anziché 48 ore per presentare i progetti, avendo Della Valle già pronto il suo, ma gli altri no, che hanno risposto, Ryanair e un altro che voleva candidarsi, non ce la facciamo in 48 ore, se non avessero dato 48 ore e avessero detto che si poteva avere l'esclusiva del logo, del nome, il brand, eccetera, per 20 anni e non per 4 come era scritto nel bando, avremmo avuto, ma figurati, cinesi, giapponesi, americani, ci sarebbe stata la corsa e avrebbero dato non 25 milioni, ma perché per 20 anni il valore commerciale di un monumento come il Colosseo, che ovviamente è inestimabile, è di 450 milioni di euro. Non so se è chiaro. Quindi ma è noi, scusi Renzi, ma noi non ci potremmo, ma non ci potremmo accontentare dei soldi che ci mette Della Valle e farla finita lì, prendendo per buono un progetto che comunque aiuterà questo monumento. Ma non ho capito, ma perché ci dobbiamo accontentare quando si può restare con 25 milioni non ci faranno proprio nulla, vedrete. Si poteva vendere il Colosseo perché è stato svenduto al prezzo giusto e il monumento sarebbe stato realmente ristrutturato. Beh, adesso però non è che viene proprio, non si farà nulla, si farà praticamente niente, però lui avrà per 20 anni l'esclusiva del Colosseo, quindi è un affare d'oro, non è un benefattore e lo Stato ha fatto una veramente si è presa una bufala pazzesca. Però quindi, quello che io fatico un po' a capire, anzi che non capisco proprio per niente, è questo. È una decisione che ha preso l'autorità competente, cioè lo Stato, il Comune di Roma, la sovrintendenza, tutti d'accordo. La valutazione sul fatto di dare questa possibilità Della Valle e anche al Colosseo è stata fatta prima. Voi che tipo di, cioè che intervento, giusto perché la giustizia italiana apre mille cavilli e vi dà la possibilità di fare adesso un altro ricorso in Cassazione, perché altrimenti c'è già una valutazione politica a monte. Scusi, ma qui non è una questione politica, è una questione di buona amministrazione e meno male che c'è la giustizia che consente al cittadino di sindacare le scelte della pubblica amministrazione che sono fatte male, in danno della pubblica amministrazione stessa. Meno male che c'è nella Costituzione questo diritto del cittadino di sindacare. E mi meraviglio che voi così siete così sensibili, vorreste la dittatura e quindi la vendita al primo offerente, veramente al primo, perché se si fosse fatta una vera asta con tutto il mondo avremmo avuto altro che 25 milioni. Lei è sicuro di questo? È sicuro? E questo è il punto, ha capito? Cioè non si può fare dire nel bando ve lo diamo per 4 anni e poi improvvisamente nel contratto salta fuori che sono 20 gli anni. Su questo sta infatti facendo accertamenti la Procura della Repubblica. Noi non è che non sì, è vero, questo, l'inchiesta c'è, l'inchiesta c'è. Però ecco, a questo punto voi quindi farete un ricorso in Cassazione, questo penso di sì, l'avete già annunciato. Il problema non è questo, noi ci auguriamo che lo Stato e il Comune non facciano i pezzenti, cioè dire meglio 25 milioni per fare un po' di rattoppi, visto che non li abbiamo, che nulla. Non si fa così, ma immaginate la Francia che dà la Torre Eiffel per 20 anni a un produttore di cibo per gatti per 25 milioni di euro, ma voi ve la sognate? Cioè, i francesi non sono stupidi come gli italiani. Un monumento del genere, se doveva essere dato ai privati per un certo numero di anni, andava valorizzato correttamente e si sarebbero potute fare tante cose intorno al Colosseo. Ma il fatto, per esempio, che il brand che beneficerà di questa pubblicità è italiano, della Valle, anziché un cinese, questo non può essere per l'Italia un valore aggiunto, non lo so, butto lì così. No, direi di no, perché è un problema di soldi, nel senso che è chiaro che preferiamo che sia un italiano, ma noi avevamo anche un altro gruppo italiano che era candidato, soltanto che non ha avuto il tempo di presentare il progetto, e chissà quanti altri ci potevano essere l'ENI, ci poteva essere... Vabbè, questo però in effetti è una cosa che riguarda il passato, adesso, cioè, se poi si riaprirà il bando, avete ragione voi, io non lo so, però sì. Nel frattempo che il Colosseo cade più o meno a pezzi, non sarebbe più saggio fermarsi, non farlo ricorso, fare iniziare questi lavori? Intanto facciamo qualcosa, per... non vorrei che poi tra 10 anni, quando abbiamo deliberato i lavori, il Colosseo non c'è più. Allora, il Colosseo cade a pezzi, come dice lei, tra virgolette, da 2000 anni, cioè è esattamente nelle stesse condizioni di 2000 anni fa, tranne qualche piccolo pezzo che ovviamente col disfacimento del tempo si potrebbe, con i fondi che ha la sovrintendenza, potrebbe essere messo a posto. Quindi il problema non è quello, quello è fumo negli occhi. Allora noi dobbiamo anche aiutare la storia poi a prendersi le sue responsabilità, non vorrei essere presuntuoso, ma dobbiamo arrivare alla fine della battaglia e qualcuno deve dire se l'appalto è corretto o no, non ci possono dire non potete fare ricorso, non so se è chiaro il concetto, ci vuole un giudice, sia quello penale adesso o la Cassazione o la Corte Europea di Giustizia, che dice è stato un fatto giusto, corretto, secondo la legge, secondo le regole, dare il Colosseo per 20 anni a un privato per 25 milioni di euro. Io vorrei vedere chi mi dice questa cosa, chi ha il coraggio di dirlo. Ma guardi, io dal basso della mia ignoranza la mia risposta è questa, è una decisione politica che è stata presa e nessun ricorso al TAR potrà mai dare una risposta a questo. Si potranno entrare nel merito dei cavilli di cui lei parlava prima, però è chiaro che il giudice non può entrare nel merito di questa, che secondo me voi fate una valutazione politica, che ha a che fare con le scelte dell'amministrazione. Comunque Rienzi, non è che io non volevo convincerla, lei forse non ha convinto me, non importa. No, certo. Ci siamo. Voglio solo dire che le scelte dell'amministrazione non sono politiche. L'amministrazione è la buona amministrazione. L'articolo 97 dice che bisogna fare le scelte migliori per la pubblica amministrazione e non sono scelte politiche. Devono dare il massimo profitto al bene collettivo con i minimi costi, quindi non sono assolutamente politiche. La scelta politica è quella di fare una convenzione internazionale per i cacciatori. Ma scusi, ma c'è un altro offerente per questo lavoro che ha manifestato nero su bianco l'interesse mettendo sul piatto più di 25 milioni? Chi è? Ce n'erano altri due che però, siccome hanno dato 48 ore per presentare i progetti, non hanno fatto in tempo, hanno scritto ci dispiace ma noi ci ritiriamo perché non facciamo in tempo. Pensate, una procedura di questo genere che è durata 48 ore. Va bene, ci fermiamo qua. Grazie Carlo Rienzi, presidente del Codacons. 800 24 0024. Tra poco c'è la sentenza della Cassazione. Chi lo sa, chi faremo lo sa. La fine di Mentana anche noi, cioè in attesa tutta la vita. Ah, Costantino su Twitter scrive: in realtà i giudici hanno già la sentenza, ma sono riuniti davanti al TG La 7 a scommettere su quanto reggerà Mentana. Quindi mi sembra. Va bene, così. Va bene. Sul Colosseo tu sei stato a Roma ultimamente, no? Io sì, sono stato a Roma, però non è che mi sono messo a controllare come stava il Colosseo, diciamo. No, non ho capito se è identico a come 2000 anni fa. È lui così. Ha detto che sta crollando da 2000 anni, quindi la preoccupazione sul fatto che potrebbe effettivamente. Però poi, poi succede. Però appunto è come il quadro appeso alla parete, il chiodo è stato lì per 8 anni, poi a un certo punto cade. E, insomma, il Colosseo non è che si è messo benissimo. Vabbè, Rienzi, Codacons, questo era. Cosa facciamo? La borsa? La good news, poi la borsa e poi torniamo in attesa della sentenza. E And now, the good news! Da 3 anni, Guido Ponzini, 28 anni, viola da gamba, e Miriam Farina, 21 anni, arpa, suonano in un duo acclamato nel mondo. Guido e Miriam hanno un sogno. Per testimoniare quanto sia difficile farsi strada nel mondo della musica classica, vogliono costruire la MG Inc. Orchestra, con musicisti precari. E allora, in bocca al duo! L'attualità, anche d'estate. Tempo. E se ne frega se qualcuno è in ritardo, puoi chiamarlo bastardo, ma intanto è già andato. E fino adesso niente l'ho mai fermato. E tutto a più forse lo hai misurato con i tuoi orologi di ogni marca e modello. Ma tanto il tempo resta sempre lui quello. L'unica cosa che c'è data di fare è avere tempo da poter organizzare. Se da organizzare da dividere in pasti. Tempo è il tempismo che cerchiamo di avere in attesa di questa decisione della Cassazione. Siamo tutti in attesa, è inutile far finta di nulla. Però c'è anche il ritmo lento, per esempio di Quagliariello, Gaetano Quagliariello, il ministro per le riforme, che è stato registrato da un grillino durante una seduta della Commissione Affari Costituzionali, credo che fosse, un dibattito sulle riforme che ha preso una piega surreale, con Quagliariello che parla per minuti e minuti praticamente della storia del pensiero politico, delle istituzioni, e fa dei riferimenti incredibili, cioè sembra quasi che dovesse perdere tempo per qualche ragione. Sentiamo uno di questi passaggi. L'aperta della macchina a vapore, della locomotiva e del treno ha sulla democrazia parlamentare, perché senza il treno non ci sarebbero stati i comizi fuori dalla propria provincia, non ci sarebbe stata la nazionalizzazione, tra virgolette, della proposta politica, e dunque è evidente che la democrazia cambia anche tenendo conto dei mezzi di trasporto. Gabardini, capito? Mica male. Infatti viene definita la supercazzola questa. Il livello ovunque. Del dibattito. Ora, io non è che metto in discussione che si possano fare dei riferimenti storici in Parlamento, per l'amor del cielo. Ben venga l'approfondimento storico e culturale, però discorsi come questi sembra che non portino proprio democrazia e mezzi pubblici, da nessuna parte. Sentiamo ancora. Poi ovviamente le cose sono cambiate, la stampa nazionale è stato un primo passaggio, e un altro passaggio fondamentale è stata la scoperta, cioè la diffusione della radio prima. Come si possono immaginare tutti i cambiamenti degli anni 30 senza considerare l'incidenza che ebbero appunto i mass media, in particolare la radio, e poi infine la televisione. Quindi nessun dubbio che anche la rete e quello che la rete consente in termini di social network inciderà sulla democrazia parlamentare. La rete, già, perché si parlava poi alla fine, il tema qual era? Le consultazioni online per questa per avere le idee, gli spunti sulla riforma costituzionale. Ora noi non ce l'abbiamo con Quagliariello, però davvero. Poi io, da stagista della radio, devo dire che prendi appunti anche su sono questo. Felicissimo che abbia nominato la radio, come mezzo fondamentale degli anni 30, ecco. Hai visto? Però fa impressione, sentire roba di questo genere. Non so chi è il grillino che l'ha registrato, credo che fosse una seduta a porte chiuse, non lo so, Infatti sentiamo degli strani rumori, perché è un audio rubato, dura circa 10 minuti ed è tutto così. Poi, vabbè, naturalmente avranno detto anche cose più utili e concrete per il percorso delle riforme, però 800 24 00 24. Cominciamo con gli ascoltatori. Aulo da Udine, buonasera. Buonasera, grazie per l'intervento. Eccoci, la sentiamo maluccio. Aulo, pronto? Mi sente? Sì, abbastanza, prego. Ecco, io volevo fare un invito alle... No, non lo sentiamo, ho sbagliato, non lo sentiamo. Marco da Modena, buonasera. Buonasera, è un piacere parlare con voi. Io le telefonavo solo per esprimere il mio disappunto sul fatto che la Chiang abbia rifiutato di presentarsi alla convention della Lega Milano Marittima. Già, è vero, perché la notizia di oggi, questa non l'abbiamo detta, è che la Chiang appunto ha rifiutato l'invito di Zaia per andare a Milano Marittima. Però lei aspettava questa risposta, aveva detto a Maroni che doveva pubblicamente prendere le sue difese. Io sono di sinistra, la Lega non mi è mai stata particolarmente simpatica, non sono completamente in accordo con la Chiang anche sullo Jussoli, però io capisco, magari lei ha avuto paura dei fischi, ha avuto paura delle contestazioni, ha avuto paura di non lo so. Il fatto di non esserci presentati, di non presentarsi, secondo me, era un gesto di civiltà. Andare là, discutere, parlare dei suoi motivi, sentire anche quelli che non sono d'accordo con lei, insomma. Però mi scusi, non credo che sia una questione di paura in realtà la sua, è più un dato politico. Lei chiede al leader della Lega di dissociarsi, diciamo, da delle cose che sono avvenute. Se si dissocia, dice: io certo che vengo alla vostra festa. Se invece il punto del vostro partito è quello di tirarmi delle banane e di darmi della negra, allora è un problema un po' diverso. O no? Io penso che non ci si può andare, e soprattutto per un politico, dove sempre sono tutti in accordo con te. Quindi se deve aver paura dei fischi... Sì, ma non ha paura dei fischi, scusi, è un dato politico. Scusi, dice, Marco, il problema è che la Chiang ci voleva andare alla manifestazione della Lega Nord a Milano Marittima, e lei sarebbe andata in un luogo dove sapeva già di avere dei punti di dissenso forti anche. Quindi nel suo cammino c'era, ma anche della Lega, perché sennò non avrebbero invitata. Cioè andava tutto bene. Quello che è andato male sono stati, dal punto di vista della Chiang, gli insulti arrivati da esponenti leghisti e la mancata, diciamo, presa di posizione, questa in effetti, di Maroni, che ha un po' glissato su questo. Cioè poteva essere più netto. D'altra parte non ha voluto del tutto dare soddisfazione alla Chiang. Ha detto: noi la chiamo personalmente. Poi, diciamo che i voti dei razzisti sono pur sempre voti, quindi perché perderli? È un po' questo il concetto. Gabardini sta semplificando. Comunque, Marco, non so se... Vabbè, poi ognuno resta della sua opinione. Voleva dire qualcos'altro? No. Va bene, siamo a posto, grazie. Dove andiamo? Andiamo... Fabio da Bergamo, buonasera. Buonasera. Prego. Io volevo solo intervenire riguardo alla Cassazione. Sento tanto che dicono di Berlusconi che sarà condannato o assolto, ma a me risulta che la Cassazione deve fare solo un giudizio di merito. Cioè, dire se i processi... Scusi, a cosa le risulta a lei che la Cassazione deve fare? Deve dare solo un giudizio di merito, nel senso... Guardi, io non sono la persona più adatta, però credo che lei si sbagli, perché non è l'opposto, non deve dare un giudizio di merito, deve dare un giudizio di forma. Si è confuso, sì. Ecco, quindi? Nel senso, dire i processi sono stati fatti in modo corretto, a questo punto vale ciò che ha detto il tribunale, oppure rifate i processi, ci sono prove in più da sentire, qui Berlusconi può uscire condannato o assolto con formula piena, ma non è la Cassazione che lo assolve o lo condanna. Sì, ma Fabio, ma perché lei fa questo discorso? La Cassazione di fatto è l'ultimo grado di giudizio, quindi avrà l'ultima parola, e quindi sarà lei a dire se Berlusconi sarà assolto o condannato. Su questo ci piove poco. Io sento molto dire condannato o assolto, ma la Cassazione può anche dire il processo va rifatto. Sì. Abbiamo fatto o lo conferma o l'annulla oppure la rinvia, questo è quello che può fare. Fabio, non lo so, ecco, questo però lo sappiamo da giorni, non ho capito il senso del suo intervento. No, era solo per... sento in TV che dicono che viene assolto o condannato. Ma non ascolti la TV, ascolti la radio. Ascolti la radio, era una precisazione. Grazie Fabio, grazie, buona serata. Sandro da Varese. Buonasera a lei. Volevo intervenire sul discorso del Colosseo. Il presidente del Codacons parlava di soldi, di cifre, 20 anni, 450 milioni, potevano intervenire americani, cinesi, voleva entrarci anche Ryanair, un bla bla, insomma, di questo genere. Dovrebbe anche tenere in considerazione il fatto che quei 450 milioni in 20 anni, se i lavori di restauro li facesse un italiano, e quindi in questo caso della Valle, probabilmente porterebbero un 50% di tasse, di introiti, quindi per lo Stato, perché i soldi rimarrebbero in Italia. Ryanair è un esempio di come lavori in Italia, guadagni in Italia e le tasse le paghi in Irlanda. Quindi, secondo me, tante volte valutazioni a più ampio raggio, quindi studiando un contesto in modo meno eclatante, potrebbe portare a ragionamenti un po' diversi. Questo è quanto. Va bene, Gabardini, lei vuol dire qualcosa arrivati a questo punto della nostra serata? No, c'è qualcosa, ho già parlato troppo, Twitter. Direi, da stagista ho già parlato troppo. No, sono curioso di sapere come arriva la notizia, non essendo io un giornalista, cioè che cosa avverrà qui? Guarda, cioè, allora, sarà Twitter a darla per prima? Diciamolo per quello che c'è, no, sicuramente, perché è sempre così da poi a questa parte. Diciamo quello che sappiamo che succederà, così creiamo un po' di suspense. Anche perché su Twitter si apriranno già le porte dell'aula, verranno fatti entrare i giornalisti, lì sapremo che tra poco uscirà il giudice della Cassazione che poi leggerà la sentenza, spero in un italiano comprensibile, non credo, ci sarà bisogno di interprete, e poi lì capiremo. Ah, quindi già si sa che non può essere fra tre minuti, giusto? Perché comunque no, deve esserci questo rito. Infatti c'è un'attesa che si prolunga e va bene. Allora, andiamo ancora con gli ascoltatori, io direi. Facciamo il signor Gerardo che ci chiama da Parma. Buonasera. Buonasera, io volevo intervenire a proposito di Berlusconi, della sentenza in attesa e di tutte le altre sentenze. Io reputo quest'uomo un uomo pericolosissimo, ma non da oggi, per la democrazia in questo nostro paese, sfortunato purtroppo. Quest'uomo, i suoi ideali di capi di governo sono Gheddafi, a cui bacio la mano, il presidente del Kazakistan, Putin, tutta questa gente. Se noi non fossimo in Europa e non fossimo tutelati dall'Europa, quest'uomo avrebbe mandato per strada polizia, carabinieri, esercito, e lo vediamo dai suoi parlamentari. Non esageri, però scusi, a parte non ho capito il presidente del Kazakistan adesso che c'entra. È un suo amico, una persona a cui lui tiene moltissimo. Ah, sì? E l'abbiamo visto anche con l'ultima questione di quella della signora e della figlia che è stata. Sì, però adesso Berlusconi non c'entra nulla con Ablyazov, eccetera. Cioè, Alfano, ministro. Guardi, c'era un vecchio politico italiano che adesso è morto, Andreotti, che diceva che a pensare male si fa peccato, ma spesso si va vicino alla verità. Sì, però in questo caso è proprio una bischerata, secondo me, perché Berlusconi, non lo so, poi magari ci sono dei legami. Il capo del ministero sì. Era Alfano, e sappiamo che Alfano è uno dei suoi, e di conseguenza ubbidisce ciecamente, l'abbiamo visto nel corso degli anni, a ciò che Berlusconi vuole e dice. Cioè, quest'uomo è veramente una persona molto pericolosa, mi stupisco che gli italiani. Però adesso non questo sarebbe un po', come dire, l'antologia di Berlusconi, no? L'abbiamo dette tante, ne sono state dette tante su di lui, eccetera. Adesso guardi, però siamo in un'altra fase. Ma dei parlamentari che ci vengono a dire che bloccano le autostrade, gli aeroporti, ma stiamo scherzando, ma dove siamo? Ma mi è piaciuto ieri sera in quella trasmissione della alle 8:30 lì sulla 7, dove Furio Colombo ha fatto presente che Nixon, per molto meno, fu cacciato fuori e contestato dai suoi stessi repubblicani per il bene dell'America. Per molto meno cosa? Per cosa? Per la questione del Watergate e via dicendo. Sì. Ma sempre in riferimento al caso Ablyazov? Prego? Lei sta dicendo sempre in riferimento a quello che è successo in Italia con il caso Ablyazov, quello lì? No, io faccio riferimento che ci sono democrazie serie, sì, dove prima di tutto viene l'interesse dello Stato, del Paese, dei cittadini, e poi l'interesse del singolo. In questo caso viene prima l'interesse del singolo Berlusconi, che ne ha fatte di cotte e di crude. Va bene, basta. Queste cose le abbiamo dette mille volte, però io direi che proviamo a fare un passo in avanti. Adesso intanto facciamo il traffico, good news traffico, poi rientriamo, decidiamo se fare l'attesa della sentenza con un ospite del PDL, oppure invece fare altro, perché poi gli ascoltatori ci dicono che parliamo solo di Berlusconi, però non abbiamo ancora parlato. No, assolutamente, ma si vince qualcosa qui nel momento che c'è l'ascoltatore in onda nel momento della sentenza? Quello è, quello è un sarebbe premio. Giusto, no, dargli un premio, sì, assolutamente. Ora ci pensiamo. Traffico. And now the good news. In bicicletta da Torino a Venezia, pedalando a fianco del Po tra agriturismi, città d'arte e paesaggi. Grazie al progetto del Politecnico di Milano, che ne sta studiando il tracciato, una ciclabile così potrebbe presto divenire realtà, come quella del Danubio, che attira ogni anno migliaia di turisti. Così, pedalando sulle rive del fiume, si potrà dire: quanto manca? Ancora un po'. Si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare l'attualità anche d'estate. Ed eccoci qua, rientriamo in compagnia di Lara Comi, europarlamentare del Popolo della Libertà. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Dove si trova, in Italia o all'estero? No, in Italia, in attesa come tutti di questa sentenza. Sì, esatto, è per quello che glielo chiedevo. Beh, insomma, sembra che stia slittando. Cos'è, un segnale positivo dal vostro punto di vista o no? Ma guardi, io confido veramente che si possa avere una soluzione positiva, anche perché notiamo che tutta l'Italia è bloccata, non solo via del plebiscito che ha creato un tilt, ho visto, nel traffico, ma veramente anche in Parlamento si vede e si nota questa tensione, ho visto alcune immagini. Io spero veramente che si possa avere, in seguito anche ai discorsi che sono stati fatti da parte del professor Coppi e da Ghedini, il fatto del l'annullamento di quello che è venuto in secondo grado e quindi un eventuale rinvio. Vabbè, quella però è la difesa, bisogna vedere poi la mediazione quale sarà. Ma c'è la manifestazione davanti Palazzo Grazioli, che lei sappia? È diversa però, cioè, non è effettuata direttamente da il PDL, ma dall'esercito. Sì. Di Silvio, ecco. Perché ride Lara Comi? Perché li ride? No, sorrido perché a volte ci sono strutture sovrastrutture. Perché fa ridere l'esercito di Silvio, oggettivamente fa un po' ridere, dai. Questo sì. No, su quello devo dirle che l'esercito è una parola che non è che mi piace molto, ecco, devo essere onesta. Però forse dà anche il senso del clima che si è creato in questi quest'ultimo periodo. Quanti sono davanti Palazzo Grazioli, lei lo sa? Ma guardi, io ho visto delle immagini, quindi mi sembravano una cinquantina, però le dico, non posso quantificarlo perché ho visto delle immagini televisive. Comunque noi abbiamo rispettato assolutamente il volere del Presidente, non ci siamo presentati, ma non per questo non lo stiamo seguendo con ansia. L'esito. Senta, un'altra cosa, bypassiamo il discorso se sarà condanna o assoluzione, perché magari fra due minuti siamo in diretta e abbiamo la soluzione del rebus, altrimenti forse è anche inutile stare qua. Una cosa sicuramente che ci sarà la successione della leadership di Berlusconi, perché comunque già lui si è fatto da parte, c'è Alfano, si parla molto sui giornali vicini al centrodestra di Marina Berlusconi, c'è questa presunta intervista del Cavaliere che avrebbe detto questo, eccetera. Prima di tutto, è verosimile questa cosa? Sta in piedi o è solo giornalismo di retroscena? Ma io immagino che sia anche un po' di giornalismo di retroscena, perché noi a settembre partiamo con Forza Italia, indipendentemente da quello che avverrà come sentenza, rimane sempre la leadership del Presidente Berlusconi. Questo è quello che ci aspettiamo ed è quello per cui stiamo andando avanti e stiamo lavorando. Poi, se il Presidente Berlusconi deciderà di sua spontanea volontà di passare la mano, io ho sempre detto che secondo me è la figura carismatica anche di una donna, e quindi ci sarebbe anche un cambio di passo su questo, non mi dispiacerebbe neanche meno la figura di Marina Berlusconi. Ecco, però una giovane donna in politica come lei, che si sta facendo strada e sta facendo anche la gavetta da un certo punto di vista, che comunque in politica ci vuole anche questo, bisogna farsi un po' le spalle. Ma guarda, io ho iniziato con questa arrivare con Marina anni. Berlusconi catapultata lì al posto di leader. Qualcuno, Formigoni, ha detto chiaramente non si va avanti così. Guardi, Berlusconi, il presidente Berlusconi non ha fatto gavetta, cioè se vediamo si è buttato nel 94 ma ha dimostrato alle spalle di avere una grande capacità organizzativa e comunicativa. Io ritengo che ci sono delle persone che hanno bisogno della gavetta, come la sottoscritta che ha iniziato a 19 anni a far politica, ci sono altre che hanno una marcia in più. Ecco, ma Marina Berlusconi ha questa marcia in più? Perché ha fatto non in azienda. Sì, però non la si vede in interviste pubbliche spesso, non si sa se possiede la comunicativa che deve avere un leader politico come per esempio ha sicuramente Berlusconi, è innegabile tutto questo. Cioè lei è una donna dell'azienda, della famiglia Berlusconi, chiave, questo sì, però non ha un'immagine politica pubblica, per ora non l'ha. Ma questo secondo me sarà uno dei suoi vantaggi. Perché in un momento di antipolitica forse il politico stesso non viene più apprezzato, no, però, come un tempo. Però un momento Grillo, era un comico. Però lui di carisma ne ha. Io sto dicendo un'altra cosa, non che non abbia fatto, su questo ammetto che la sua posizione può essere chiara. Cioè, se uno è un leader, anche se non ha fatto gavetta, esatto, si presenta e prende i voti, bam, ha ragione, avete ragione voi. Ma nel caso della Marina Berlusconi, questo è molto in dubbio, perché lei non avendo una caratura pubblica, cioè un'esposizione pubblica, non ha mai fatto interventi, discorsi, non è mai stata applaudita dalle folle, voglio dire, insomma, è un passaggio che potrebbe anche essere complicato. Grillo era seguito da migliaia di persone nei suoi spettacoli prima di fondare Grillo, faceva ridere, era un comico e ora in certe situazioni fa piangere. Io ritengo invece che Marina possa avere tutte le capacità anche per effettuare una crescita politica, per carità. Ci sono delle persone che hanno una capacità comunicativa innata, abbiamo notato la capacità anche di leadership e comunicativa che ha all'interno dell'azienda e che tutti gli riconoscono. Se questa capacità viene spostata anche in politica, ben venga. A me non dispiace, io forse perché arrivo dall'azienda, un manager con delle regole un po' più rigide e ferree anche all'interno di un partito. Cioè non è un po' poco però essere stata una buona donna azienda. Allora, che so, il centrosinistra potrebbe prendere Guido Barilla, che ha guidato la Barilla. Bene. Sicuramente potrebbe far meglio di tanti altri che sono lì. Può darsi, però poi si sa che bisogna andare a prendere voti in campagna elettorale, cioè lei sarebbe lì, però in pratica agirebbe nello spirito di Silvio Berlusconi, che quindi resterebbe il vero... No, perché guardi, in azienda non è riconosciuta come la figlia del presidente Berlusconi, ma ha una sua autonomia, una sua capacità. Naturalmente bisogna essere bisogna dare una mano, bisogna essere quindi... Beh, una è difficile crederci però, Lara Comi, perché avrà una sua autonomia, ma che è la figlia di Berlusconi in azienda, credo che questo un pochino conti. No, ora, no, però vedi, ci sono non ci nascondiamo dietro un dito. Uno può essere il figlio di, ma non avere le capacità, e di conseguenza viene sempre visto come il figlio di. Successivamente uno può essere il figlio di, ma dimostrare una propria autonomia e delle proprie capacità, e a quel punto gli viene riconosciuta una certa autonomia, e questo è quello che è avvenuto a Marina, ma anche ad altri. Cioè, se viene definita come una delle donne più importanti nel mondo, in Italia... No, no, a livello manageriale indubbiamente, può darsi anche che faccia poi un salto nella vita pubblica e ci sorprenda tutti. Senta, venendo invece a quello che poi ci lasceremo, perché tra un po' abbiamo il giornale radio, lei avrà degli impegni, non è che possiamo qua stare tutta la sera in attesa. Lei andrà eventualmente in piazza se ci saranno delle manifestazioni, qualora Berlusconi dovesse essere condannato dalla Cassazione? Manifestazioni in piazza, sì, questo sì. Ma allora, su questo ci saranno delle decisioni, perché non so se hai anche notato, c'è stato un cambio da parte del PDL su come reagire di fronte alla magistratura, anche se le idee di fondo non sono cambiate, però non abbiamo fatto questa manifestazione oggi, quindi attenderemo anche delle indicazioni del Presidente, perché è il primo interessato e quindi è giusto rispettare anche la sua volontà. Se ci sarà la possibilità di scendere in piazza, ci scendere in piazza. Se invece ci saranno altri modi, perché in un caso o nell'altro secondo me ci saranno delle influenze politiche, non dico direttamente sul governo, ma in generale ci sarà anche una riflessione che andrà fatta col PD, anche perché le ultime notizie... Ecco, ma questo l'ha detto anche Lupi l'altra sera, cosa vuol dire fare una riflessione col PD? Che c'entra il PD in questo senso con la vostra reazione all'eventuale condanna di Berlusconi? Ma il PDL è sempre stato stato molto compatto in questa fase, ha detto comunque il governo non avrà nessun tipo di ripercussione, siamo stati su questo molto molto lineari. Dall'altra parte invece abbiamo un alleato costretto tra virgolette da certe circostanze che invece ha posto delle differenti correnti al suo interno e anche di idee. Abbiamo Letta che dice non ci sarà un terremoto, ma abbiamo Renzi e Civati invece che hanno opinioni diverse. Cioè voi volete avere la garanzia che il PD sia unito, allora arrendetevi, perché secondo me non ce l'avrete mai, perché è una battuta, però insomma. No no, però a quel punto non possono aspettarsi neanche un PDL sempre con un però yes, mi scusi, il PD è disunito da sempre forse, e anche adesso, però se ci state al governo adesso ci potete stare anche dopo, anche se è disunito. Non penso. Non penso, perché un conto adesso è che è una situazione di emergenza, io spero che da questa emergenza si possa uscire, quindi oggettivamente non vedo in futuro ancora un governo così, sennò è veramente il fallimento della politica. Vabbè, certo, prima o poi 18 mesi, due anni sono troppi di orizzonte per il governo Letta, secondo lei? Guarda, dipende dall'attività che svolge, nel senso che io non voglio dare una scadenza, sicuramente ci sarà una verifica ai 18 mesi, ma finché fa le riforme, finché va avanti, io non darei scadenza. Grazie, buona serata, Lara Comi. Grazie, buona serata a voi. Salve. 800 24 0024. Giornale radio. Sì, sì. No, mi spiace che, siccome dalle regole di ingaggio, essendo io stagista, non posso fare le domande. Tieniti il ai commento politici. Per dopo, eh? Va bene. Ce l'hai pronto? No, volevo semplicemente. Ero curioso, nel senso che chiediamo che cosa fanno nel caso che venga condannato, ma io vorrei anche sapere che cosa fanno nel caso che non viene condannato. Cioè, dove festeggiano? Come festeggiano? Ci sono dei free drink? Giornale radio. And now the good news. A Modena nasce Portobello, il supermercato sociale dove i disoccupati trovano generi di prima necessità gratis in cambio di qualche ora di volontariato nel supermercato stesso. Solidarietà e dignità qui vanno di pari passo, il passo del baratto. Si può fare l'attualità anche d'estate. Eccoci qua, 800 24 00 24. Nonostante tutto, nonostante tutti, tra un po' sentiremo i vostri interventi, cari ascoltatori, al numero verde. Adesso riprendiamo il filo. Intanto la notizia l'avete sentita, tra mezz'ora, a questo punto anche un po' meno, è attesa la sentenza, perché questa è la notizia che è uscita poco fa dalla Cassazione. Titoli del TG3. Processo diritti Mediaset, riuniti da mezzogiorno in Camera di Consiglio i giudici della Corte di Cassazione, attesa per la sentenza. Le ultime carte della difesa e legale di Berlusconi puntano all'assoluzione o un nuovo processo d'appello per illecito amministrativo. Per l'ex presidente del Consiglio è il giorno della verità, con lui i figli e i fedelissimi, Palazzo Grazioli presidiato dalle forze dell'ordine. Tensioni nella maggioranza, al Senato il PDL insorge per due nomine targate PD, Schifani convoca d'urgenza il gruppo, si dimettano subito. Spese troppo alte nel mirino del nuovo redditometro che punta a scovare gli evasori, Draghi la ripresa sarà graduale. Rischia l'estradizione in Ucraina, Blyazov, il dissidente kazako arrestato ieri nel sud della Francia, l'appello dei figli non consegnatelo al Kazakistan. Snowden, l'ex analista della CIA, ha ottenuto l'asilo temporaneo di un anno in Russia. Per Mosca la situazione non deve influenzare i rapporti con gli Stati Uniti. Tempo. E se ne frega se qualcuno è in ritardo, puoi chiamarlo bastardo, ma intanto è già andato. E fino adesso niente l'ho mai fermato, e tutto a più forse lo hai misurato con i tuoi orologi di ogni marca e modello. Ma tanto tempo resta. Oggi abbiamo deciso di aprire così con la musica Giovanotti. Tempo, Gabardini, perché noi siamo sul tempo, siamo sul pezzo. Siamo sul pezzo anche noi. Ci sono le immagini adesso dell'aula dove verrà letta la sentenza, si vedono dalle televisioni, ci sono i giornalisti che si stanno accomodando. Tempo, e c'è anche il tempo lento di questo intervento di Gaetano Quagliariello, ministro ministro per le riforme che in commissione affari costituzionali, credo che fosse, è stato registrato di nascosto da un grillino, perché probabilmente la seduta era a porte chiuse, e in questo intervento, di cui abbiamo un estratto di una decina di minuti, in cui Quagliariello fa una disamina sulla storia del pensiero politico, le istituzioni, la democrazia, il tram, la radio, c'è di tutto. Perfetto sul tempo, direi che presto diventerà un rap questo. Surreale, adesso. Sentiamolo. L'aperta della macchina a vapore, della locomotiva e del treno ha sulla democrazia parlamentare, perché senza il treno non ci sarebbero stati i comizi fuori dalla propria provincia, non ci sarebbe stata la nazionalizzazione, tra virgolette, della proposta politica, e dunque è evidente che la democrazia cambia anche tenendo conto dei mezzi di trasporto. Io no che non m'annoio, non m'annoio, no che non m'annoio, no che non m'annoio, io no che non m'annoio, tempo. Poi ovviamente le cose sono cambiate, la stampa nazionale è stato un primo passaggio, e un altro passaggio fondamentale è stata la scoperta, cioè la diffusione della radio prima. Come si possono immaginare tutti i cambiamenti degli anni 30 senza considerare l'incidenza che ebbero appunto i mass media, in particolare la radio, e poi infine la televisione. Quindi nessun dubbio che anche la rete e quello che la rete consente in termini di social network inciderà sulla democrazia parlamentare. Ma di cosa parlano, Gabardini? Questi sono i politici che tu paghi, cioè il ministro della tua repubblica, che c'era bisogno di fare il giro quando così parlano largo, così diventano della mia repubblica, della che tua. Io pago. Mi fa molto ridere dalle immagini che si vedono dalla Cassazione, sì. Che mi sa che c'è un carabiniere e prima anche un altro che non sanno di essere diciamo online, che tutto il mondo li sta guardando, perché ogni tanto non fanno mi dire anche che si è scaccolato. Dei balletti, non ho ben capito. Comunque noi non ce l'abbiamo con Quagliariello, però è veramente assurda questa cosa qua del dibattito sulla storia della democrazia per fare una riforma della legge elettorale o del Parlamento, ma insomma qualcosa di concreto, vi prego. Vabbè. E non mi stanco. Adesso è il momento del punto di vista strambo, però ce l'abbiamo ogni sera, ci porta altrove, lo usiamo proprio così per divagare. È agosto, ma insomma anche quando non è agosto è giusto ogni tanto girare la testa dall'altra parte. Temo che la sentenza della Cassazione potrebbe essere il punto di vista strambo su questo serata. Paese, questa, così per dire. Questa è la migliore che hai detto da quando sei arrivato. Davide Giansoldati, autore di Vivere meglio con lo yoga della risata. Buonasera. Buonasera. Lei che cosa fa negli stage, nei seminari che organizza per far ridere la gente? Come? Che cosa fa in questi incontri in cui cerca di far ridere senza motivo? Le persone. Forse anche. Esatto, il cuore della disciplina dello yoga della risata è proprio insegnare alle persone come si fa a ridere senza motivo. E ridere senza motivo significa andare a scoprire quali sono i nostri muscoli e da attivare in modo che si tratta l'esercizio proprio come se fosse un esercizio. Cioè quella cosa che per esempio Berlusconi sa fare benissimo, che ride così anche quando non c'è motivo, cioè una predisposizione anche gioviale, ma quella è un'altra cosa forse. Certo, quello sì, nel nostro caso è proprio un esercizio fisico, come una persona solleva un manubrio, corre, e sì, in questo caso attiva gli addominali e crea una risata forzata. E poi lentamente si trasforma in una risata spontanea. Vogliamo far sentirla? Si può fare? È bellissimo. Questo fa ridere, guardi. Fa ridere perché è buffa la cosa, però. Io rido con un motivo, però. Cioè, il motivo è la tua risata, è per questo che rido. Esatto. Fa ridere perché si ride senza motivo. Come nello spadiglio. Sì, però come voglio dire, cioè, se uno ci si mette un attimo a pensare, non è così istintivo e segue la risata, ma si ferma un attimo lì. Magari ride perché la situazione è comica, no? Nel senso che lei sta ridendo senza motivo. Certo, però certo, è così. Ma infatti quello che si insegna proprio nei nostri workshop e training di yoga della risata, a farla partire così, senza alcun motivo. A comando, perché si può fare, però il risultato è che si sta meglio, cioè uno si libera, si scarica proprio... Sì. Si rilassa. Quali sono gli effetti? Perché ci sono degli studi, lei so che nel suo libro riferisce anche gli studi fatti in India, stage, sì, misurazioni. Esatto, ci sono tantissimi effetti. I principali è che bastano pochi minuti di questo esercizio per produrre endorfine, che sono un po' il nostro oppioide endogeno, quindi quella sensazione di euforia, di gioia che subito ci fa star meglio. Il secondo effetto è che abbiamo molto più ossigeno nel nostro sangue e quindi tutto il nostro corpo funziona meglio. Respiriamo meglio, abbiamo anche quel bel colorito, io come esempio cito sempre Heidi che aveva nel cartone animato quelle le guance rosse. Esatto, esatto. Bastano 5-10 minuti e le persone proprio hanno questo bel colore dei buon sangue non mente. Però già Davide, sono tanti 5-10 minuti di risata tutta forzata, cioè neanche se vado allo spettacolo di Crozza nel momento più bello rido per 5 minuti di fila. E poi per avere le guance rosse, cioè basta il vino rosso per le guance rosse. È questo il bello dello yoga della risata, che un comico non ce la fa a farvi ridere per così tanto tempo. Noi con queste tecniche che prevedono 40-60 secondi di risate, poi una piccola pausa per prendere fiato e poi riprendere, pausa andiamo caffè a creare una sorta di onda sempre più, forte. Ma chi sono le vittime, i malcapitati, i pazienti, no, le persone che vengono ai suoi stage, cioè aziende, convention? Ma veramente io ho fatto workshop di tutti i tipi, quindi ho lavorato con dei bambini di 4-5 anni, aziende di tutti i tipi. L'ultimo che ho fatto era stato un mese fa in Heineken, quindi comunque anche in realtà molto trasversali. Un'altra azienda qualche mese fa lavorava nel mondo delle paghe contributi, Z-Service, quindi stiamo passando da un settore all'altro. Sono tutte aziende, se vogliamo, un po' illuminate e attente al benessere dei propri dipendenti, e quindi questa tecnica li ha aiutato a star meglio. Poi malati di Alzheimer, gruppi adozioni, quindi è veramente una tecnica trasversale. Probabilmente nei prossimi mesi faremo degli esperimenti anche nei carceri, proprio perché può aiutare tutti a migliorare la propria vita. Si riesce a superare lo scetticismo di chi magari è lì che dice: ma di cosa stiamo parlando, ma siete tutti pazzi? Si riesce davvero a coinvolgere? Quali sono i risultati che riporta dopo queste sedute di risata forzata, chiamiamole così? Certo, ma ci sono persone che possono arrivare all'inizio con un po' di scetticismo. Ecco perché io inizio sempre le sessioni con un po' di argomentazioni razionali, diciamo, che servono proprio a capire perché facciamo questo, quali sono dei benefici concreti, e poi lentamente sposto le persone proprio nella pratica e iniziano a godersela così tanto che non si fanno più la domanda del perché sono lì, ma proprio si godono l'esperienza fino in fondo. Quindi è un po' come magari la persona che non ha mai fatto un massaggio va, prova, e all'inizio è sempre un po' teso, poi inizia a sentire tutti i propri muscoli che si sciolgono e poi si lascia andare. Ecco, è un po' la stessa sensazione. Siamo rimasti senza parole. Esatto, volevamo ridere. Mi sembra il paese migliore questo per ridere senza motivo, giusto? Cioè, i motivi diciamo li hanno tolti e continuiamo a ridere. Cioè, Gianzoldati può fare affari d'oro in Italia. Altrove, magari dove ci sono motivi, non c'è bisogno di chiamarlo. Esatto. Va bene, vuol farci un'altra risata prima di salutarci? Così. Ma certo, tutti insieme. basta perché sennò c'è qualcuno a casa che spero che nelle nauseato macchine quelli che stanno ascoltando tutti stiano ridendo, che sarebbe molto bello. Oppure una stanno coda sbandando, esatto. No, esatto. Non vorrei creare degli incidenti. Poi non possiamo perché lei è autorizzata a fare risate forte, noi esatto. No, non ci viene altrettanto poi bene. Poi durante la lettura della sentenza a Mediaset sarebbe terribile, se ti beccano che ridi, secondo me o comunque vada è un problema. Poi dicono che ironizziamo sul centrodestra, non va bene. Grazie Davide Gianzoldati, buona grazie serata. Grazie a voi, buona serata. Grazie. E buona continuazione. Questo era lo yoga della risata. Adesso, che dire, io guardo continuamente con la coda dell'occhio l'aula della sentenza della Cassazione, ma non succede nulla. No, quindi hanno solo portato un cappello al carabiniere che ne era privo. Un cappello? Sì, il cappello. Cappello del carabiniere, va bene. Good news, Borsa, torniamo tra un attimo. And now, the good news! Roberto Chiappella è un radiotecnico in pensione. Recuperando libri gettati via o donati da chi voleva disfarsene, ha aperto una biblioteca. La cosa strana è che la biblioteca si trova nel suo condominio di Milano, in un'ex portineria. Così, alla prossima assemblea condominiale, si potrà litigare. Sì, ma citando Tolstoi o Voltaire. tempo? E se ne frega se qualcuno è in ritardo, puoi chiamarlo bastardo, ma intanto è già andato. E fino adesso niente l'ho mai fermato. E tutta più forse lo hai misurato con i tuoi orologi di ogni marca e modello. Ma tanto il tempo resta sempre lui quello. L'unica cosa che c'è data di fare è avere. Tempo passa e intanto nell'aula della Cassazione si sono messi la toga, quelli che credo siano i giudici, oltre che il cappello, il carabiniere. Quindi sta succedendo qualcosa. Ci dicono i nostri, il nostro inviato Andrea Viali, che tra poco faranno entrare anche giornalisti. La stampa, quindi si procederà alla lettura della sentenza. Intanto, nel giorno più difficile, il ritorno di Sandro Bondi in televisione a Omnibus. Sentite il suo pessimismo, no, non sulla sentenza, ma sulla situazione italiana. Il suo catastrofismo l'abbiamo sentito prima. L'Italia è un paese ingovernabile, ha detto, eccetera, eccetera. Poi sulla sentenza dice questo. Che sono cittadini come gli altri, che vivono tutte le tensioni, anche le passioni, i sentimenti civili di tutti gli uomini normali. Quindi il loro compito è veramente gravato da un grande peso morale, politico. Dentro il giudizio della coscienza, come cittadini, c'è anche forse un piccolo spazio per la ragion di Stato. Chi può negarlo? Ma nella propria coscienza, però. Fanno vedere, sono sfuggenti come le pantere, quando li cattura una definizione, il mondo è pronto a una nuova generazione, e non mi annoio. 800 24 00 24, non dimentichiamoci degli ascoltatori, riprendiamo con Rinaldo che ci chiama da Milano, buonasera. Buonasera. Eccoci qua. Prego. Io volevo, forse sono anch'io, come avete chiamato la rubrica di prima, quello il fuori il punto. Lo strambo, il punto di vista strambo. Esatto. Anche lei ride perché, così senza motivo. Se, no, perché volevo fare una considerazione. Avevo sentito il presidente del Codacons che sì, cavillava sul fatto del Colosseo, chi fa il restauro, chi non fa il restauro. Quello che mi stupisce è che nessuno, ma nessuna associazione dei consumatori, visto che siamo tutti consumatori, ha mai detto che in un momento come questo, dove c'è bisogno della crescita, e la crescita si può fare solo sviluppando il mercato interno, non ce n'è uno che abbia detto: ma perché non privilegiamo il consumo e l'acquisto di materiali e di prodotti nazionali? In che campo? In tutti i campi, lei sta dicendo? In tutti i campi, partendo dalla canottiera, che se uno deve andare a cercare una maglietta, una canottiera, deve, il Made in Italy non lo trova più, perché sono tutte Albania, Romania, eccetera. E da, ma in cioè tutti, lei dice proprio una campagna che potrebbero fare l'associazione dei consumatori, non è male, ma la sua idea, per promuovere i prodotti italiani, sembra, una cosa un po' nazionalistica, però in questi tempi di crisi lei dice potrebbe, invece di occuparsi del Colosseo, ecco. Esatto, mi sembra sono così la palissiana questa cosa, anche perché sì, io lavoro in un'azienda manifatturiera. Io ho un di cosa si occupa lei nella sua azienda? Noi cosa produce? Facciamo articoli tecnici per aziende che fanno strumenti di misura. Articoli tecnici? Siamo dei subfornitori, sì, siamo dei subfornitori, facciamo prodotti tecnici. Il discorso è questo però, io temo che ormai quasi tutti rincorrano il salario e non il lavoro, questo è il problema dell'Italia, soprattutto dove c'è della manifattura. Cioè lei dice si va dove si spende meno, no, il prodotto? Si privilegia molto di più il salario e non il lavoro, perché il lavoro ahimè costa fatica in tutti i campi e in tutti i settori. Ma io mi rifaccio ad alcune inchieste che avevano fatto anche dei quotidiani nazionali importanti, sì, non dico il nome, ma il lavoro più richiesto, quello più ambito è quello nella pubblica amministrazione. Nella piccola impresa non ci vuole andare nessuno, perché nella piccola impresa ahimè si suda. Questo anche è vero. Però vabbè, questo discorso del privilegiare, perché i politici io posso capire che non possano fare un discorso di questo tipo, hanno un sacco sì, di sì sì no ma è chiaro, l'invito alle associazioni di consumatori di occuparsi di cose come per esempio privilegiare l'acquisto dei prodotti italiani anziché metter becco nella questione del Colosseo. Intanto grazie, buona serata. Intanto dall'aula della Cassazione particolari di umanità varia si vede, no? C'è il carabiniere che discorre con una donna in toga, sarà una dei giudici, non lo so. Si stringono la mano, sorridono, non lo so, c'è gente che passa con la borsa. È emozionante. Sembra la sala d'attesa di un treno, della stazione. No, non sembra quello che sta per succedere. Vabbè, Gabriele da Roma, buonasera. Ah, salve, buonasera. Vi chiamavo perché ieri un ascoltatore ha chiamato e si è messo a parlare del degrado di Roma e voi l'avete trattato con una certa sufficienza, come se fosse un problema secondario, ecco. No, vabbè, stavamo parlando della pedonalizzazione dei fori imperiali, della questione di Marino, eccetera. E lui parlava di decoro, e lui parlava più che altro del decoro e noi cercavamo di riportarlo sul tema. Non è che la questione del decoro non sia importante, però... Era quello il discorso. Prego, Gabriele, cosa vuoi dire? Sì, probabilmente sì. Il fatto è che mi sembrava, da come l'avete gestita voi, diciate, vabbè, sì, c'è la personalizzazione, ma il decoro è una seconda battuta, è un problema secondario che noi affronteremo successivamente. No, perché sa qual è la questione? Che tante volte si fa un provvedimento su qualche cosa e poi arriva uno e dice, no, ma è più importante quell'altro. E allora si porta via l'attenzione. E di questo passo poi non... Non si fa più niente. Ecco. Ne ha uccisi più il benaltrismo che esatto. Qualcosa, sicuramente. Però a lei il decoro invece sta a cuore, perché? Beh, Roma è una città che vive un profondo deficit di decoro. C'è proprio un problema di vivibilità concreto che poi si riflette anche sulla qualità della vita dei cittadini. Ma che cosa si intende con decoro, precisamente? Io sono quello stupido. L'immondizia per strada, tutte quelle cose. No, cioè... no, è una domanda da $1 milione, ecco, perché effettivamente... Ecco. Capiamo però che cosa intende. Effettivamente ognuno ha il suo concetto di decoro. Sicuramente una città vivibile, una città dove ci sia... dove la qualità della vita possa essere, però, possa essere... Allora anche la pedonalizzazione forse la rende più vivibile, quindi si occupa di decoro, quindi è un modo di occuparsi del decoro anche questo, giusto? Sì, però ad esempio l'ascoltatore di ieri aveva sollevato un altro problema che voi e lì siete stati ancora, l'avete deriso ancora di più. Ecco, faccia la vendetta dell'ascoltatore di ieri, vada lei sull'argomento. Quando ha parlato del venditore di castagne, allora a Roma è risaputo che c'è tutta la ristorazione ambulante è in mano a una specie di monopolio e con, dicono, anche profonde entrature politiche nelle stanze del comune. E per cui in realtà, se quello è un problema di decoro, in realtà è anche un problema di qualità della vita. Sì, diciamo che l'ascoltatore si era espresso un po' male, perché aveva detto deriso. Vendere le castagne ad agosto, non si capiva niente. Lei l'ha detto un po' meglio. Esatto, detta così. Vediamo questa lobby che ad agosto... Ci dovremmo interrogare su... ad esempio su quanto si paga di concessione di suolo pubblico per queste postazioni. Perché noi però non ho capito perché poi alla fine ha chiamato per parlare del decoro, ma relativamente al fatto che è più importante occuparsi di questo e quindi per esempio, all'ordine del giorno non bisogna penalizzare fuori imperiali allora, tutta quella roba là, oppure per Roma, scusate, è talmente devastata che ogni problema va affrontato. Intanto però ecco, esatto. Si sono seduti i giudici, non quelli c'è, veri. Non c'è ben altro a Roma. Sì, resti in attesa, Gabriele, perché qua c'è la sentenza. Ha vinto la sentenza in diretta, che può ascoltare. Numero 27.884/2013, iscritto al numero 8 dell'udienza pubblica del 30 luglio 2013, la seguente decisione. Rigetta i ricorsi di Agrama Frank, Galetto Gabriella Lorenzano Daniele, che condanna al pagamento delle spese processuali. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Berlusconi Silvio, limitatamente alla statuizione relativa alla condanna alla pena accessoria dell'interdizione temporanea per anni 5 dai pubblici uffici, per violazione dell'articolo 12,2 decreto legislativo 10 marzo 2000, numero 74, e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Milano perché rideterminino la pena accessoria nei limiti temporali fissati dal citato articolo 12, ai sensi dell'articolo 133 codice penale, valutazione non consentita alla Corte di legittimità. Rigetta nel resto il ricorso del Berlusconi, nei cui confronti dichiara, ai sensi dell'articolo 624,2 codice procedura penale, irrevocabili tutte le altre parti della sentenza impugnata. Condanna tutti gli imputati in solido al pagamento in favore della parte civile, agenzia delle entrate, delle spese dalla stessa sostenute in questo grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 5.000, oltre accessori come per legge. L'udienza pubblica è terminata. Ecco, già finita tutta la cosa. Allora, annullata con rinvio, cioè io quello che ho capito è che è stata annullata la sentenza di secondo grado. Io ho capito relativamente all'interdizione, quindi sì, esatto, adesso c'è il flash d'agenzia, la Cassazione condanna Berlusconi, quindi confermata la condanna, quella diciamo penale, ma viene annullata l'interdizione, c'è un rinvio al Tribunale di Milano. Adesso noi tra poco ci collegheremo anche con qualcuno che ci aiuterà a capire meglio dal punto di vista tecnico questa sentenza e anche un po' quelle che sono le conseguenze, visto quello che va delineandosi, una soluzione comunque di compromesso, sembra questo. Nel frattempo che contattiamo i nostri ospiti, direi che torniamo per un attimo al numero verde, sì, perché tanto Gabardini, lei non è in grado di commentare assolutamente. Assolutamente no. Di aggiungere qualcosa a questo momento di difficile per il paese. Intelligente no, di sicuro. Oh, ma perché non ho capito, annulla, rinvia, non ho capito niente, se proprio essere onesto, io non l'ho capito. Spiegato, mi sembrava di essere stato. Allora, la sentenza è stata, lo ridico, magari, sì. La sentenza è stata annullata nella parte che riguarda l'interdizione, magari mi esprimo male, ma è così. La parte invece della condanna non è sarà stata interdetto, quindi non c'è l'interdizione, c'è un rinvio tra l'altro al Tribunale di Milano, non so se è sull'intero processo, ma credo solo sulla parte relativa all'interdizione, annullata e rinviata al Tribunale di Milano, confermata la condanna, quindi un compromesso. Stiamo provando a raggiungere qualcuno, che faccio, do il numero verde oppure proviamo a sentire, che ne so. Numero verde 800 24 00 24, Bruno da Modena? Sì, prego, tocca a lei in questo momento particolare, diciamo così. Buonasera, mi sente? Sì, lei ha capito meglio di quello che ho capito io alla sentenza. Sì, ho capito che secondo ci sono solo le pene accessorie che riguardano proprio l'annullamento. L'annullamento, le altre, la condanna rimane. Io sono contento che sia condannato Berlusconi, così adesso. Guardi Bruno, si fermi un attimo che così ci. Nuovo per altri vent'anni. Sì, sì. La First Lady ascolti un attimo che ci fermiamo con lei. Abbiamo invece la Donatella Stasio del Sole 24 Ore che ci conferma quello che stavamo noi cercando goffamente di interpretare. Allora Donatella, intanto buonasera, benvenuta. Buonasera. Hai sentito la lettura della sentenza, quindi di cosa si tratta? Sì. Ma dunque è sostanzialmente sulla linea delle richieste del procuratore generale, salvo per un punto: il procuratore generale riteneva che potesse essere la stessa Cassazione a rideterminare l'interdizione. La durata, esatto, dell'interdizione, mentre invece la Corte di Cassazione ritiene di non avere questo potere e quindi limitatamente a questo punto ha rinviato alla Corte d'Appello. Questo che cosa vuol dire? Che per quanto riguarda la pena principale, quindi innanzitutto la contestazione del reato rimane frode fiscale, e la pena principale rimane, quindi questa parte passa in giudicato, per quanto riguarda la pena accessoria, che evidentemente non può superare i 3 anni, secondo il decreto legislativo citato numero 74 del 2000, sarà la Corte d'Appello a stabilire se che durata avrà. Che piacere averti qua, Donatella, perché abbiamo capito finalmente per bene tutto. Allora, sintetizzo, praticamente la pena principale viene confermata, esatto. L'interdizione non viene, cioè viene annullata la sentenza di interdizione, però sarà il Tribunale di Milano, la Corte d'Appello, a dover riverificare diciamo, tra 0 e 3 anni, potrebbe annullarla, tra 1 e 3, quindi il minimo. Perché sarebbe comunque, un anno. Esattamente, comunque. Perfetto. La pena accessoria scatta. Va bene, e non so, vuoi commentare dal punto di vista dell'attesa di questa sentenza, se è una soluzione di compromesso, possiamo dire così, in qualche modo? Bah, insomma. insomma, non direi proprio di compromesso, perché la parte centrale è stata confermata, quindi sostanzialmente è stata riconosciuta la responsabilità di Berlusconi per i fatti che gli venivano contestati, questo mi sembra il punto più importante, e quindi è soltanto un problema di rideterminazione di una pena accessoria che comunque ci sarà, e dal punto di vista, diciamo, del peso diciamo giudiziario rimane notevole, perché insomma è una sentenza passata in giudicato che accerta una responsabilità penale, quindi non parlerei di un compromesso. Va bene, allora diciamo così, tra fatto zero una diciamo assoluzione su tutta la linea e 100 una conferma, che percentuale daresti tra 0 e 100? Tra 0 e 100, fatto 0 diciamo l'annullamento della sentenza di condanna totale e 100 una conferma invece su tutta la linea, che percentuale daresti? Darei una percentuale di 99. Ah, addirittura, sì. Va bene. Ok, grazie Donatella Stasio, il Sole 24 Ore è preziosa perché ci ha aiutato un po' a capire in prima battuta, perché non è semplicissimo. Allora, andiamo al Palazzo della Cassazione. Allora, giustizia è fatta, ci sono un po' di persone che festeggiano, però c'è anche il nostro Andrea Viali. Andrea? Sì, Alessio. Non so dove tu ti trovi a questo punto, se sei ancora dentro o fuori, perché fuori c'è gente mi che festeggia. Mi stanno cacciando dal palazzaccio, letteralmente. Cioè, dopo una giornata di sole lì e di caldo, ti stanno buttando fuori. È passata ad aspettare sulla scalinata, siamo entrati alle 5, adesso la sentenza l'abbiamo trasmessa in diretta, in letta, ora ci stanno gentilmente chiedendo di lasciare il palazzo, ecco, della Corte di Cassazione. Ero in preascolto, comunque sì, ho sentito, avete spiegato esattamente sì, quello che era il senso di questa sentenza, e naturalmente adesso aspetteremo anche di capire quali saranno i commenti degli avvocati difensori di Berlusconi, Ghedini e soprattutto Franco Coppi, che non erano presenti qui in Cassazione, ma sappiamo a Palazzo Grazioli assieme al Cavaliere, comunque un sentenza che accoglie soltanto in minima parte quelle che erano le loro richieste, visto che la pena principale, quella a 4 anni di carcere, è stata confermata ed è una pena pesante. Cioè io ho usato inizialmente l'espressione compromesso, poi è stato corretto da Stasio che dice che in realtà viene confermata quasi tutta la linea la condanna, è la sensazione che hai anche tu di lì. Però ti vorrei chiedere una cosa, non so se tu stai uscendo adesso dalla Cassazione, se sei ancora dentro. Sto facendo resistenza, sì, però sì. Chi sono queste persone che sono lì davanti con dei cartelli, credo in tedesco, che sono festeggiano? Guarda, io in questo momento non vedo queste persone. Ti posso dire che oggi per tutta la giornata ci sono stati pochi curiosi, insomma personaggi che si sono affacciati qui sotto, insomma, ma si temeva anche che potessero esserci manifestazioni pro o contro Berlusconi consistenti, ma in realtà forse anche per il gran caldo tutto questo non c'è stato. Parliamo di singole persone. Adesso lasciami il tempo di uscire, certo, magari ti posso dare qualche informazione. No, le immagini ci rimandavano questi personaggi con la bottiglia di spumante e dei cartelli, credo in tedesco, che è stato condannato. Erano poche persone, a dire la verità. Va bene, grazie Andrea, grazie anche per il lavoro che hai fatto per il giornale radio, ti risentiremo credo più avanti, stasera, domani nei servizi, eccetera. Noi torniamo in studio e ci abbiamo Folli? No, non ci abbiamo Folli, ci abbiamo Elisabetta Fiorito, che però è alla Camera e sta monitorando le reazioni politiche, importantissime in questo momento. Elisabetta, buonasera. Buonasera Alessio, allora? Dicevo che qui ha parlato solo Pisicchio di Centro Democratico e ha detto che secondo lui il governo non cadrà, perché tutti ci stiamo chiedendo. Però chi è Pisicchio? Cioè il Centro Democratico non è che sia uno proprio fondamentale. No, ma è chiaro, però tutti ci c'era stiamo solo chiedendo. Lui. C'era in questo momento, perché poi adesso arriveranno, però il problema è: cadrà o non cadrà il governo? È questo che noi qui alla Camera ci chiediamo da 3 giorni circa, perché da una parte Berlusconi la scorsa domenica ha detto proprio: io non sarò a staccare la spina al governo, ma sarà il PD che non vorrà governare con me perché io sarò condannato. E dall'altra parte il PD continua a dire che assolutamente bisogna tenere le due cose distinte. Oggi il PDL un pochino di bizze l'ha fatte, Schifani ha convocato i suoi al Senato perché dicono che il PDL non era stato coinvolto in una cosa abbastanza secondaria, tipo la scelta delle delegazioni per l'Unione Europea, queste cose così, e a un certo punto noi abbiamo visto un certo nervosismo. Però detto questo, la questione rimane, perché la conferma della condanna c'è. Non c'è l'interdizione dei pubblici uffici, ma la conferma c'è, e quindi Betta, il PD in questo momento si trova proprio guarda, in uno facciamo snodo. Così, ti interrompo un attimo perché c'è Stefano Folli che tra poco però è sul TG1 e del resto il TG nazionale ha le sue esigenze. Lo strappiamo un attimo alla diretta e resta lì, perché se c'è qualche dichiarazione subito di qualche politico un po' più importante di Pisicchio la diamo. Che hai, che se vuoi puoi ascoltare. Aspetta, sì, dopo. Stefano Folli, buonasera. Sì, eccomi, ciao. Allora, è chiaro che tutti si chiedono questa soluzione adottata dalla Cassazione che conseguenze politiche avrà? Ma questo adesso è difficile dirlo. Certo, non è una decisione favorevole a Berlusconi per nulla, perché c'è la conferma della condanna e c'è il rinvio alla Corte d'Appello per quanto riguarda l'interdizione, ma soltanto perché la Corte d'Appello, diciamo, la ridefinisca, e quindi in realtà l'appello, l'interdizione, quindi anche l'ipotesi di dover abbandonare il Parlamento rimane sospesa nell'aria, e anzi a questo punto diventa semplicemente differita nel una tempo. Una specie di spada di Damocle, perché in pratica il minimo che, se ho capito bene, il minimo che può dare il Tribunale di Milano è un anno di interdizione, quindi non si scappa. Cioè, a questo punto la Cassazione esce di scena, quello che la Corte d'Appello di Milano deciderà sarà già andrà in applicazione, quindi è vero che il Parlamento adesso non ha il problema di recepire l'interdizione con tutte le conseguenze che ci sono, però stando così le cose sarà una questione di qualche mese, diciamo che entro la fine dell'anno si dovrebbe la Corte d'Appello si potrebbe pronunciare, ed ecco che avremo il problema di Berlusconi interdetto, sia pure per un anno, per due, se non lo possiamo sapere, ma resta il punto politico. La conferma della pena a 4 anni vuol dire che 3 anni saranno sì cancellati dall'indulto, però rimane un anno, e questo pesa naturalmente, pesa su di lui, non c'è dubbio. Quindi rispetto allo scenario un po' più ottimistico di un rinvio alla Corte d'Appello di un pezzo di processo almeno, questa è una sentenza più dura, anche se non c'è adesso il problema immediato dell'interdizione. Quindi diciamo si allungano un po' i tempi, l'interdizione però arriverà, e quindi qualcuno però diceva sui giornali che nelle retroscene, insomma, che già questo accorciamento dell'interdizione potrebbe consentire, per esempio, un anno, se diciamo gestito nei tempi giusti, a Berlusconi di ricandidarsi tra un anno e mezzo, e questo potrebbe, diciamo, facilitare il mantenimento del governo Letta e una non reazione aggressiva da parte del PDL in vista di questo. È una cosa secondo te credibile, realistica o no? Guarda, stasera non lo possiamo dire questo, è troppo presto. Certamente questa è una sentenza che non è esattamente l'ideale per la stabilità del governo, ecco, questo direi di no, anche se io credo che Berlusconi cercherà di vedere il bicchiere mezzo pieno, ecco, di vedere che non c'è adesso l'interdizione, che gli conviene tutto sommato mantenere un certo assetto stabile, io credo, penso di sì, perché un'interdizione immediata avrebbe avuto conseguenze politiche devastanti, una interdizione indifferita apre la strada agli scenari che stai dicendo, che richiamavi anche tu adesso, e potrebbe, diciamo, evitare un impatto immediato sul governo, ecco, cerchiamo di vederla così. Va bene, grazie Stefano, ciao, lasciamo. Perché tra poco appunto sarai ospite su TG1, questo è importante anche per noi, il nostro editorialista del Sole 24 Ore ci vogliono subito al TG1. Io non parlo perché è assolutamente un momento di giornalismo, essendo io un stagista non posso certo parlare in questo momento. Non so se Elisabetta Fiorito ha qualche agenzia, ma non credo, qualche dichiarazione, non c'è niente al momento, Betta, di dichiarazioni politiche. Betta no, si è allontanata dalla postazione alla Camera, alla caccia naturalmente di qualche dichiarazione. Allora, facciamo? No, torniamo a... Su Twitter tendenzialmente, ecco. Direi che la posizione un po' di tutti è quella che avevi dato tu a caldo, di una sentenza a metà, insomma. C'è chi dice, va bene, allora metto su mio amico Charlie Brown, ma non facciamo il trenino, per dire. Cioè che è tutto un po' come per... tutto a metà, quindi non di grande contentezza. Cioè non viene sottolineato, come noi abbiamo ben sottolineato, che in realtà è stato condannato a 4 anni. Questa condanna non la toglie nessuno, naturalmente, a Berlusconi. Il tema poi dell'interdizione è anche altrettanto cruciale, però rimane sospeso per qualche mese finché non i tempi della giustizia non interverranno. Abbiamo Bruno da Modena, credo, ancora in linea. Ce l'abbiamo? Abbiamo un minutino, perché poi dobbiamo, anzi 30 secondi. Allora facciamo così, non facciamo neanche questi 30 secondi. Facciamo subito il break pubblicitario, torniamo tra un attimo con Bruno e gli altri ascoltatori all'800 24 0024. And now, the good news! Da 3 anni Guido Ponzini, 28 anni, viola da gamba, e Miriam Farina, 21 anni, arpa, suonano in un duo acclamato nel mondo. Guido e Miriam hanno un sogno. Per testimoniare quanto sia difficile farsi strada nel mondo della musica classica, vogliono costruire la MG Inc. Orchestra, con musicisti precari. E allora, in bocca al duo! Si può fare l'attualità anche d'estate. E adesso possiamo finalmente sì riprendere il nostro ascoltatore Bruno, che ci chiamava da Modena. Non ricordo più che cosa stesse dicendo, non so neanche stavo commentando la sentenza, e ci avevo preso a dire che Berlusconi è condannato. Sono contento perché per altri 20 anni ci serviamo il centrodestra. Questo sicuramente. Cioè lei dice che questa sentenza di condanna avvantaggia il centrodestra, questa sentenza, perché lo mette nella posizione di vittima, di fare la vittima? Certo, si fa cadere il governo subito, si va alle elezioni con sua figlia, si torna a vincere, i compagni rosicano per altri 20 anni. Ma lei da che parte perché sta in tutto questo? Non capisco se è ironico o se è soddisfatto o dispiaciuto. Cosa, Bruno? No, io sono molto soddisfatto, proprio perché non c'era più leadership. Adesso con questa sentenza parte sua figlia, e per altri 20 anni i comunisti la prendono nel culo e via. Va bene, dai, che scenario. Vuole aggiungere qualcos'altro? Io non ho, Avete capito che gli italiani a Berlusconi il voto glielo danno, sì. e il centrodestra sempre vinto, perché la però maggioranza che... non vuole i comunisti in Italia. Sì, ma avete questo capito, mi sembra... avete capito? Ma a chi dice? A me, a Gabardini in particolare? O a chi sta parlando? All'Etere, a chi sta parlando? A Maurizio Gabardini o agli italiani o agli ascoltatori o all'Etere? A chi? A Radio 24? Io a chi parlo? Io parlo. Lo avete capito chi? Il sentimento degli italiani è chi? Un sentimento. Chi? Bruno, di chi? Libertà. L'avete capito chi? C'è bisogno dei giudici, Bruno, per tirarvi a Berlusconi. L'avete capito chi? Con chi ce l'ha? Ce l'ha con me? Hanno fatto sputanare dei soldi, intercettazioni dei Bruno, nostri niente, soldi. Va avanti. Lo teniamo di sottofondo, poi ogni tanto lo facciamo. Bruno? Sì? L'avete capito chi? Con chi ce l'ha? Con i giudici, con la Cassazione, con il Partito Democratico, con me, con chi ce l'ha? Sono una vergogna. Come? Pieni di privilegi e... È una persecuzione così che è stata fatta a Berlusconi. L'auguro il 10% ad Alema, a tutte quelle persone lì, aggreganti, che si è fermato con i soldi alla porta di Palazzo di Bottega Oscure, ha capito? A Di Pietro, che anche lui abbiamo visto che fine ha fatto, e a Fini, che per colpa sua ha consentito agli italiani di poter governare. E ma quanta interdizione prenderà secondo lei? Quanta interdizione daranno a Berlusconi secondo lei? Ma sicuramente gli danno 2 anni. Due anni glieli danno. Però va questo bene. Non conta. No, non conta. Grazie Bruno. Curiosità. Facciamo i titoli del TG1. Ah, non ci sono, avevo letto male. Allora facciamo un altro ascoltatore. Allora forse c'è ancora Bruno. Come? Ah sì sì, libero, se vuoi ti dico libero titolo a Mediaset: ingiustizia è fatta, assolti PM, condannato il cavaliere, rinviato in appello l'interdizione. Sono in diretta sul TG1, vanno avanti e quindi salta tutto stasera. Marco dalla provincia di Lecco, buonasera. Marco? Non c'è Marco? No, è caduto. Allora facciamo Gabriella che ci chiama da Pescara. Gabriella, buonasera. Pronto, buonasera, sì. Eccoci qua. Sì, io ho ascoltato, sto ascoltando da diversi giorni, leggo eccetera, mi sento Radio. È una settimana che stiamo aspettando questo cavolo di sentenza. E adesso questa sentenza arriva a metà, mi perdoni, non le pare? Può abbassare la radio, scusi, che la sentiamo male? No, la radio è abbassata. Vabbè, la sentiamo male, allora facciamo un altro ascoltatore. Allora provi a alzarla perché la sentiamo male. Qualcosa dovrebbe fare. Nel frattempo andiamo a Pierluigi che ci chiama dalla provincia di Taranto. Buonasera Pierluigi. Luigi? Pierluigi? Sta guardando quelli, Stefano Folli sul TG1? Quelli no, che non rispondono sono a festeggiare, credo, quindi bisogna richiamarli. Qua però sono tutti a festeggiare, cioè, non rispondono. Questo Angelo dalla provincia di Cremona. Pronto? Angelo dalla provincia di Cremona, prego, buonasera. Buonasera. Volevo intervenire con un ascoltatore l'altra sera. Siamo sfigati, non ne becchiamo uno che si senta. Sì, la sentiamo male. Ma forse Angelo, là fuori c'è la guerra civile e, noi, e non ce lo dicono qui dentro nella nostra teca di vetro. Siamo rimasti isolati e non ci siamo resi conto, perché in effetti tutte le telefonate. Chiamateci, Angelo, diteci cosa succede lì fuori. Riproviamo un attimo con Angelo, se no ne prendiamo un altro, prego. Sto sì, ascoltando. No, lei ascolta, ma siamo noi che non sentiamo lei, purtroppo, e questo diciamo non facilita le cose. Riproviamo, sentiamo, sì, vada. Ma volevo intervenire riguardo un ascoltatore l'altra sera che festeggiava perché sono andati via Crociani e Parento. E lui parlava per tutta la Roma, che tutta la Roma è proprio, non lo so, in festa. E io volevo dare un appoggio del mondo, del sistema solare, via Lattea e dintorni, a Crociani e Parenzo, ecco, tutto qui. Viva, grazie, siamo con lei. Anche voleva noi, dire solo questo o voleva dire anche altro? Salve, no, basta così, grazie. Allora torniamo a Marco dalla provincia di Lecco, buonasera. Buonasera. Gavardini, volevi intervenire, Marco, sull'argomento? Senta, no, io assolutamente sicuramente no. Festeggerò. Sì. Tengo a precisare, non sono di sinistra. Io non sono mai stato di sinistra, non ho mai votato sinistra. Però io spero anche che faccia qualche mese di galera questo signore, perché ci ha sfasciato l'Italia e lui si è arricchito. Poi volevo dire, se non ho capito, pronto? Sì, sì, la sentiamo, sentiamo. Sul decreto che ha detto, sulla legge che ha detto che dell'interdizione, che è stata fatta quando parlava prima il giudice, non era, ha detto del 2000. Vorrei capire, nel 2000 chi c'era al governo quel momento in cui ha fatto quella legge per ridurle l'interdizione, perché visto che è stata fatta nel 2000, se non sbaglio nel 2000 c'era lui al governo. Nessuno questo lo dice. Ah, dice che si era portato avanti, che 13 anni fa aveva già cambiato la cosa del caso che... Chi è che ha ridotto no, i termini? Tra l'altro nel 2000 non c'era lui al governo. Non c'era lui al governo nel 2000, c'era il centrosinistra e nel 2000... Chi è che ha ridotto però i termini, sì, tutti i termini dei vari processi? Li ha ridotti già lui, si è fatto tutte le leggi ad hoc, si è fatto questo qui. Però è oggi è il giorno in cui viene condannato. Non si è fatto le leggi ad hoc. Ma tutti questi argomenti sono gli argomenti che, diciamo, se non fosse stato condannato, uno dice: perché la prescrizione, cosa ha cambiato tutto? Tutti ma sto giro è stato condannato, però. Eh? È stato condannato a questo punto. Quindi parliamo di questo. Stasera, sì, appunto, io, quando vado io sono in giro ancora per lavoro. Tra l'altro, sono passato prima da Arcore. Come va lì? Non c'è giro nessuno. Ero di passaggio, sono passato via dove c'è la casa, non c'era lì solo. Anche qua, perché dobbiamo pagargli noi carabinieri e polizia a piantonargli la casa, questo qua? Tutte le case, le proprietà, ditole queste cose. Che magari qualche volta. No, ma lo dica lei, va bene, eh? Diciamo tutto. Allora, c'è una dichiarazione di Grillo. Berlusconi è morto, virgola, viva Berlusconi, vabbè, questo è Grillo. È l'unica per ora che vedo di dichiarazioni molto monarchica, diciamo, direi, come dichiarazione. Di dichiarazioni di un certo rilievo, perché per ora non è uscito ancora nulla. Allora, chi abbiamo in linea all'800 24 0024? Michele da Roma. Michele, benvenuto, buonasera. Buonasera. ho ascoltato la, sì, la sentenza in diretta, allora ho detto voglio proprio chiamare pure per temperare un po' la temperatura, perché sento alcuni ascoltatori che sono proprio, come posso dire, infoiati, vogliamo dire. No, la cosa era che riflettevo, no? L'ha visto lei, Gli Intoccabili? Sì, sì. Allora, c'è una similitudine nel discorso di Berlusconi. Cioè, Al Capone non sono riusciti a prenderlo per tutto quello che combinava tra omicidi, traffico e di tutto. Sì, ma l'hanno preso per una minuzia. Per una minuzia. Per praticamente le tasse, il fisco. E così è successo a Berlusconi. Non riuscivano a beccarlo in tutto quello, secondo alcuni grandi giornalisti, la stampa e tanti altri politici, dicevano che combinava, alla fine dove l'hanno beccato? Sul fisco. Frode fiscale. Sì, questo è un particolare in effetti interessante, perché Berlusconi è passato attraverso un sacco di processi per corruzione, addirittura si è fatto il suo nome tramite Dell'Utri per i processi sulla mafia, eccetera. E poi nel classico stile italiano si cade tutti sul fisco, e anche lui è caduto sul fisco. Andiamo a vedere tutta la storia dei 20 anni, no? È stato attaccato da tutte le parti per cosa? Per mafia, per corruzione dei giudici, per poi vabbè, la storia di Rubi, no? Io dico stronzate, però vabbè. Io intanto non ho ancora sul fisco. Grazie Michele. Io intanto non ho ancora capito chi sono questi qua intervistati da Sky TG24 con i cartelli in tedesco davanti alla Cassazione, che sono contenti, credo. Perché sono quelli che non ci rispondono al telefono, secondo me. Sì, tipo adesso abbiamo Pierluigi dalla provincia di Taranto, quello di prima, l'abbiamo recuperato? Sì, pronto, buonasera. Eccolo. Buonasera. Prego. Sì. Allora, io ascoltavo così in diretta il signore di prima che augurava ad Alema lo stesso trattamento che aveva fatto Berlusconi. Voglio aggiungere però a questo ascoltatore, però D'Alema dovrebbe avere anche lui a disposizione 3 TV, un esercito di giornalisti per plagiare l'opinione pubblica per 20 anni, come ha fatto il Cavaliere, perché sennò non è la stessa cosa. Perché un cittadino normale avrebbe già la tua vicenda giudiziaria molto anni fa, senza legge ad personam, e quindi cioè, il fatto di augurare a D'Alema lo stesso trattamento riservato a Berlusconi, ripeto, dovrebbe avvenire solo se D'Alema ha gli stessi strumenti per difendersi. Ancora oggi, sempre su Sky, sentivo per esempio le interviste ai vari avvocati, a Gasparri, alla Russa, a un giornalista del giornale, cioè tutti un pool di 5-6 avvocati e giornalisti che stavano lì oggi alle 3 a plagiare l'opinione pubblica, cioè noi sentivamo le ragioni del condannato Berlusconi, ma voglio dire, questa è una storia che si vede da 20 anni, ecco com'è che poi si arriva a gridare allo scandalo, al complotto giudiziario. Come si fa a parlare di complotto quando questo processo ha avuto protagonisti decine e decine di imputati, di magistrati, di avvocati, di giornalisti, cioè è stato regionato in tante parti, no? Possibile che tutti facevano parte di un unico progetto, quello di far fuori l'imputato Silvio Berlusconi? Mi sembra assurdo, e l'unica spiegazione logica è che questa gente che ragiona così è stata plagiata da 20 anni di TV fatto in un certo modo. Un'ultima cosa la voglio aggiungere, se me lo consente, mi deve spiegare adesso Enrico Letta, tutti avevano paura di questa condanna, cioè il PD aveva paura della condanna di Berlusconi e aveva paura della tenuta del governo. Adesso mi devono spiegare come fanno a combattere l'evasione fiscale con un condannato per frode fiscale. Ecco, è una cosa assurda, questa è una cosa assurda. Va bene, grazie. C'è una dichiarazione di Epifani, segretario del PD, che dice: la sentenza va rispettata, eseguita e applicata. Il Foglio titola, il Foglio Online: sentenza vile e cazzona. Che cosa vorrà dire poi non si sa. Cazzona forse perché così, un po' di compromesso. Sotto l'occhiale Berlusconi. Esatto. Ivo, buonasera. Buonasera, volevo un'informazione. Siccome che adesso il signor Berlusconi è stato condannato a 4 anni e probabilmente adesso prenderà un anno solo di pene accessorie, e lui continua a governare, a fare i suoi interessi. Io, per lavorare in un'acciaieria e respirare veleno, ho dovuto presentare il certificato penale. Non siamo nella stessa Italia, allora. Non ho capito, lei ha dovuto presentare il certificato penale? Hanno avuto il certificato penale per essere assunto in un'acciaieria anni fa. Ah, perché avesse la ferina penale pulita. E mi hanno assunto. Sì. Questo signore condannano a 4 anni. Scusi, abbiamo responsabile giustizia del PD a Sky TG24, Danilo Leva. Dei tribunali, delle magistrature. È una sentenza chiara che noi rispetteremo senza sovrapporre il piano giudiziario con quello politico. L'abbiamo sempre detto, per noi è così. Questo significa che dal vostro punto di vista non ci saranno ripercussioni sulla vita, sulle prospettive, su quelle che sono le dinamiche dell'esecutivo? Ma le vicende giudiziarie di Berlusconi erano note già prima che nascesse questo governo. Governo che è nato per vicende che riguardano gli italiani, non le vicende personali del Cavaliere. Noi ci auspichiamo, ci auguriamo che anche da parte delle altre forze politiche che compongono la maggioranza ci sia un atteggiamento molto responsabile nei confronti delle istituzioni, un atteggiamento che ci aspettiamo affinché insomma, non ci sia questa sovrapposizione di piani. Questa è la reazione del Partito Democratico. Il responsabile di giustizia, Ivo da Verona, stava concludendo il suo intervento, anzi lo stava facendo. Sì, volevo sapere con questo signore, per vederlo pagare un po' di quello che ha combinato, quanto deve prendere di galera, perché non lo so, fa quello che vuole, mette noi poveri cittadini, ogni minima infrazione che facciamo veniamo puniti. Cioè, vuoi sapere il perché di questi due pesi e due misure, insomma, così smaccati, c'è una roba incredibile. Va bene, grazie Ivo. Claudio da Mantova. Sera. Buonasera, prego. Io sono d'accordissimo su quello che è stato, che ha deciso il Tribunale di Milano. D'accordissimo. Di questo personaggio ne abbiamo le scatole piene, penso. Quindi è arrivato il verdetto che chiaramente ha dato una svolta al paese. Adesso le conseguenze politiche le vedremo in questi giorni, cosa succederà. Comunque è giusto così. Va bene, Fabrizio da Novara invece, prego. Pronto, buonasera. Sì. Volevo dirle, non ho votato per nessuno. Allora, le posso dire una mia teoria? Sì, in un minuto. Pronto? Che poi abbiamo il traffico. In un minuto. Sì. Allora, i giudici italiani sono degli emeriti incapaci, incompetenti, che fanno solo danni. Se vanno all'estero li mandano a casa dopo 3 giorni, se rimangono in Italia noi teniamo gli scarti e vengono buttati da qualche altra parte. Dopo che hanno condannato il Berlusconi, cosa viene in tasca agli italiani? Ha cambiato la vita? Non ha cambiato niente, tanto lui starà nella sua villetta. Ma guardi, l'hanno condannato non perché cambiasse la sua vita o la mia, ma perché secondo loro, rispetto a quelle che sono le leggi italiane, andava condannato. Questo è un altro concetto, diciamo, di giustizia. Lei ha ragione. Non è che allora si condanna per ottenere un risultato. Quella che ha investito quella ragazzina, no. Dov'è? Questo è un altro discorso. Grazie, questo è un altro discorso. Lei non ha tutti i torti, ma sono cose che non c'entrano nulla l'una con l'altra. L'investitore della ragazzina, a volte ci sono pene leggeri, ci sono cose che non vanno nella giustizia italiana, ma non è che si può mettere tutte le volte in un unico calderone e pentolone tutto. Almeno questa è la mia opinione. Good news, traffico, torniamo tra un attimo. And now, the good news! In bicicletta da Torino a Venezia, pedalando a fianco del Po tra agriturismi, città d'arte e paesaggi. Grazie al progetto del Politecnico di Milano, che ne sta studiando il tracciato, una ciclabile così potrebbe presto divenire realtà, come quella del Danubio, che attira ogni anno migliaia di turisti. Così, pedalando sulle rive del fiume, si potrà dire: quanto manca? Ancora un po'. Si può fare l'attualità anche d'estate. Sentiamo subito al microfono di Betta Fiorito dalla Camera la reazione di Saverio Romano del PDL su questa sentenza. Contestate questa sentenza di 4 anni? Non siamo contenti, non siamo affatto contenti. Non è una sentenza che ci può soddisfare, quella che prevede soltanto una rideterminazione della pena accessoria. Noi siamo assolutamente ancora oggi convinti della innocenza di Silvio Berlusconi e ci aspettavamo che questa oggi venisse riconosciuta. All'interno del partito sembra? Beh, oggi siamo tutti accanto a Silvio Berlusconi, gli manifestiamo affetto, stima e amicizia e insieme a lui vogliamo continuare il nostro percorso politico. Ma non staccherete la spina al governo? Non credo. Ma non staccheranno la spina al governo, questo era stato detto, questo viene confermato. Vogliamo sentire anche Nuti, il capogruppo dei 5 Stelle? Abbiamo sentito il PD, adesso sentiamo anche i 5 Stelle, vai. Berlusconi condannato a 4 anni, però va rimodulata l'interdizione. Cosa ne pensa il Movimento 5 Stelle? Però nulla, è stato condannato a 4 anni e quindi ora per dignità e per rispetto di quella che è il senso della politica nel senso più alto del termine dovrebbe lasciare spazio ad altri, dovrebbe allontanarsi dalla politica e dal Parlamento. Non c'è un ma, l'interdizione, questi giochetti di rinvio non significa che non è stato condannato. Signori, è stato condannato, una persona che viene condannata oltre il terzo grado va via, non bisogna aspettare altro. E che cosa pensate, che alla fine il governo cadrà per questa sentenza? Beh, direi che dovrebbe essere automatico in un paese civile. Purtroppo questo è un paese molto strano che di civile ha ben poco e quindi si cercherà qualche altro giro di parole per giustificare la presenza di un condannato per frode fiscale in Parlamento. Ma poco cioè questo può c'entrare con quello che è la dignità dei parlamentari che dovrebbero tenere. Quindi se lei avesse davanti Silvio Berlusconi adesso le direbbe si deve dimettere? Ma è ovvio, ma chi non direbbe a un condannato in via definitiva che si deve dimettere? Ma è ovvio, l'abbiamo è fra i nostri paletti della legge Parlamento Pulito, l'abbiamo sempre detto e sostenuto. Ripeto, non è una questione solamente contro Berlusconi, ma è una questione contro qualunque persona che come lui si trova nelle situazioni, proprio per una questione di dignità del Parlamento. Cosa direbbe al PD? Vabbè, basta però. Ma adesso. Partito Democratico. È troppo lunga questa intervista, se no arriviamo fino alle 8:30. Ti leggo il titolo. Sì? Il giornale che. No, non c'è più. Vabbè, era condannato il cavaliere 10 milioni di italiani. Questo era il titolo. Vabbè, sì, quindi sì. Direi un giorno molto triste per il sovraffollamento delle carceri, perché se arrivano tutti i 10 milioni. Che facciamo? Facciamo ancora qualche ascoltatore o andiamo a chiudere? Anzi, molto adesso sì. Il giornale addirittura ecco. Titolava condannato e poi in piccolino senza parole. Vabbè. Dai, questi due che ce li abbiamo in linea, li facciamo velocemente prima di chiudere. Paolo da Carrara, buonasera. Paolo, eccoci. Allora, è una cosa brutta, perché la cosa ridicola è che tutte le persone che sono intervenute anche prima di me ce l'avevano con lui come politico. Come politico lui non è condannato, lui è premiato perché lui ha la maggioranza del paese, per cui l'Italia. Adesso non ci allarghiamo, non ci allarghiamo. No, la maggioranza. Le ultime elezioni non. Ha un ampio consenso, non ha la maggioranza del paese perché il partito più votato è il 5 Stelle e se la giocano con il PD, eccetera. Va bene. 51% è un conto. Se intendiamo la maggioranza relativa del paese ce l'ha. Per cui questo è. Perché ce l'ha, scusi? Che conto fa? Non ho capito. Perché la maggioranza relativa? Ha preso il PDL. Ha preso meno del 5 Stelle? No, più del 5 Stelle. No. Si vada a informare, sì. Vabbè, non contro 25. Ha un ampio consenso, non stiamo a giocare sulle parole. Ha un ampio consenso, indubbiamente. L'ampio consenso vuol dire che in questo paese esiste una maggioranza di centrodestra. Mm. Berlusconi potrà anche scomparire perché. Tanto non scompare, ma comunque potrebbe anche succedere una cosa del genere. Ha ragione il giornale a dire condannato Berlusconi 10 milioni di italiani. Grazie Paolo, facciamo un altro ascoltatore. Scusi, vado veloce perché poi abbiamo un'altra cosa in chiusura. Luca da Genova. Ciao, pronto, buonasera. Prego. Pronto? Senta, la mia domanda è questa qua, che è abbastanza semplice. Sì. Se Berlusconi non è interdetto, cioè non è interdetto ai pubblici uffici, lui potrebbe... Se fa cadere il governo, potrebbe vincere le elezioni, diventare presidente del Consiglio mentre fa un anno ai domiciliari o ai servizi sociali. Non ho capito questa cosa qua. Io sono Berlusconi. No, avevamo detto un'altra cosa. Avevamo detto che se il governo Letta rimane in carica per un anno, il tempo in cui decade l'interdizione, allora Berlusconi si può candidare. Certo che se è interdetto non si può candidare. Sì. Ma se il PDL... Se il PDL facesse cadere il governo, Berlusconi potrebbe diventare presidente del Consiglio. Se non è per adesso non è interdetto. No, per adesso no. È interdetto, ma devono ricalcolare. No, ente come ci hanno spiegato. No, hai ragione. Gabardini, bravo. È interdetto, è interdetto, però va ricalcolata la, il tribunale di Milano, gli anni di interdizione, per cui di fatto è interdetto. Uno, però adesso non, cioè, non lo so, questi tecnicismi qua secondo me lasciano un po' tempo troppo. Per me vince anche da San Vittore, lui da dentro San Vittore, questi quattro compagni è possibile. Sono mezzo ritardati, perché sono loro il problema dell'Italia, l'unico paese. Bisogna vedere, sa Luca, bisogna vedere se lo può fare questo, e questo credo di no. Grazie, grazie. Facciamo anche Flavio e chiudiamo. Buonasera, Flavio da Roma. Sì, buonasera. Sì. Buonasera. Nulla, volevo commentare appunto la condanna a Berlusconi. Io sono veramente contento di questa condanna, perché mi auguro a questo punto che possa sparire dal panorama della politica italiana, perché uno condannato in via definitiva a 4 anni, penso proprio, e che cada il governo, questo è l'augurio mio più grande, perché in maniera tale che si torni alle urne, perché oggi stesso al Senato non hanno fatto altro che fare una lotta di potere, cercando di accaparrarsi, scusate, delle poltrone al Senato con Schifani che era arrabbiato, perché cioè, questo è il del palazzo, cioè, il Senato questo deve fare? O deve occuparsi delle esigenze degli italiani. Grazie, ci fermiamo qua con gli ascoltatori, perché l'avevamo detto, ogni sera a questo punto della serata ci vogliamo lasciare con una bella storia, con una notizia un po' diversa. Eccoci qua col tuffo. Bello il tuffo, d'estate, si può fare anche d'estate. Allora, ieri l'altro Marchionne ha detto non si può fare industria in Italia, non si può investire, un paese ingabbiato eccetera. Noi qualche settimana fa avevamo invece presentato questa piccola storia che dimostra il contrario, ma insomma adesso giudicherete voi. Eugenio Venditti, buonasera. Buonasera. Premiato qualche tempo fa come business angel dell'anno, cioè c'è una rete in Italia di persone che si occupa di dare finanziamenti alle giovani start-up, ex manager, imprenditori in pensione, non in pensione, insomma liberi professionisti che cercano di dare una mano alle giovani imprese, e lei è stato premiato perché è quello che ha avuto, diciamo, l'idea o quantomeno insomma il progetto migliore. Lei per cosa è stato premiato? A chi ha aiutato? Allora, l'impresa è NTQ Data, che è un'impresa, una startup che è nel settore dei servizi per l'antiquariato. Sostanzialmente realizza come prodotto principale un database che consente ai diversi collezionisti, anzitutto ai collezionisti, di poter fare una valutazione da se stessi di quelli che sono gli oggetti d'antiquariato che possono avere in casa o cui possono essere interessati. Io ho un oggetto d'antiquariato, vado su questo database e posso vedere quanto può valere, così mi faccio una prima idea, ecco, e questa di quanto possa valere. E questa idea qua vale sul mercato, perché evidentemente è un servizio che funziona. Lei, oltre a investire in questa azienda, cosa fa? Cioè, com'è che uno diventa business angel? Ma direi che la cosa più importante è avere comunque una qualche forma di esperienza nella gestione aziendale o comunque anche attività imprenditoriali precedenti, per cui diciamo una formazione manageriale in qualche modo, soprattutto acquisita sul campo, al di là di quelli che possono essere le excursus, gli studi o cos'altro. Io personalmente sono stato dirigente in diverse aziende per un po' di anni, fino a qualche anno fa. E quindi, diciamo, ma poi che è successo? Ha perso il lavoro per via della crisi, per esempio? Non c'è nulla di male a dirlo. Oppure ha deciso di far altro? Ma ho deciso di far altro dopo aver perso comunque il lavoro, perché c'era stata comunque una riduzione di personale, e quindi diciamo in questo senso è stata poi una scelta mia assolutamente non rientrare, cosa che peraltro sarebbe stata in questi tempi difficili, ma nelle mie, diciamo, corde in qualche modo da anni pensavo che prima o poi mi sarebbe piaciuto muovermi diversamente nella direzione che ho seguito, spinto da questa situazione, diciamo che poi è stata alla fine tutto sommato favorevole. Ecco, quindi come si dice ogni tanto, non è uno scherzo, anche la crisi può portare delle novità, certo. E quindi delle ripartenze, questo è il suo caso. Lei ha un altro progetto, mi diceva che le sta a cuore, sempre nel campo della cultura? Allora, c'è stato, dopo il progetto NTQ Data, mi sono interessato ad un'altra startup per appunto finanziarla in quelli che fossero i progetti di sviluppo futuro, e in realtà poi dopo questo contatto mi sono trovato in una situazione in cui la persona che aveva avviato questa startup addirittura ha ritenuto di voler cedere questa attività. Io l'ho Quindi lei è diventato il titolare. Vabbè, questo poi diciamo sta nella dinamica delle cose societarie. Un'ultima cosa, in pochi secondi, la frase di Marchionne sul fatto di fare o non fare impresa in Italia, lei come la giudica? Ma io credo che sicuramente ci sono tante situazioni congiunturali e strutturali per cui non è facile fare impresa in Italia, però non rinuncerei assolutamente. Non riterrei assolutamente che sia il caso di scappare dall'Italia. Bravo, bravo, bravo. Ci fermiamo così con questo messaggio di ottimismo. Gabardini, domani non ci sei. Questo non va bene. Domani non ci sono, ma non volevo dire. Ci sei al telefono, forse. Non volevo dire questo. Volevo dire che mi sembra molto bello. Cioè, che leggevo da Repubblica che entro ottobre Berlusconi dovrà scegliere tra domiciliari e servizi sociali. Quindi direi che il nuovo quiz di quest'estate è questo. La nostra nuova attesa fino a ottobre sarà questo. Cioè, cosa sceglierà Berlusconi? Domiciliari o servizi sociali? Ci fermiamo qua, buonasera a tutti, ci ritroviamo domani dopo il GR delle 18, si può fare l'attualità anche d'estate. Buonasera a tutti, anche chi ci ascolta in podcast. Sì.